sono una ventina di baracchini, figurati se sono senza microfoni, ci saranno anche 20 microfoni, no? Ah beh, gappa rogio. Gappa gappa, ehi. Adesso ne ho tolto anche tutte le antenne dei portatili, li ho messi tutti in un angolo, in modo che rimangano conservati e non li perdo. Vabbè, sì, li devo mettere in un luogo dove quando vai a cercare li trovi. Beh, no, deve essere tutto bene in ordine, hai capito? Non è che mi metti così e buonanotte. Messi bene in ordine tutto. Gli Erosmith li ho messi uno sopra l'altro, così si vedono, fanno anche loro una bella figura. No, no, già sta venendo bene. Cappa cappa, va bene bene. Tu, no, che fai? A me? Sì. Io? Allora chi? A me, io? No. Come che faccio? Sono volato. Oh. Oh. Ho detto che fai a riposo? E domani si ricomincia il lavoro? Cappa, è positivo. Ma domani mi sembra che sia domenica. Ah no, lunedì. Ah, io penso anche incontro, la verità. Ok, bisogna che guardo il calendario. Perché se no queste teste una sopra l'altra perdi il conto. Ma si perde l'orientamento. Ma anche se no magari già esiste di mandare a travagliare, lui non fa demo, credi che è quella vista. Capito me. E così che con queste feste cioè, si perde il filo dell'orientamento, È il capo di positivo. Vabbè, debutto che non abbiamo bevuto, ma perlomeno, moderato, bicchierino, qualcosa così, e basta, niente di eccessivo. Allora, uno conto non mette i romantesi. Sì, vabbè, ma succede. Ehi, noi abbiamo la luce. Ma in poche parole siamo in domenica oggi, così. Guarda, non me lo dire, se non guardo il calendario non lo so. Vabbè, accettiamo per domenica oggi, bu. No, e poi bisogna che guardo, perché sai com'è. Se no, non mi muore di nulla mia figlia San Borgi. Bambino. E poi le figlie. La Befana di nuovo. E poi ci rimane la Befana. E dopo la Befana mi sa che siamo. Le feste sono già finite. L'Epifania, tutte le feste porta via. Che apparocero. E poi se ne fai da Pasqua, come un uomo. A vero, dopo ci fai da Pasqua. Muoi, muoi. Sì, vabbè, ma ci divertiamo lo stesso, c'è il carnevale di mezzo. Sì, sì, come ti ha detto. Ci divertiamo lo stesso. Gappa, gappa. E ci mancherebbe altro che non ci divertissimo, se no a che cosa siamo vivi a fare? Per fare gli zumbi. Natalino ci deve essere abbigliata, pancia piena, bebo un buco, sarà ancora in buttendi. Ma vai che si voglia mangiare bisi, cazzo mi sa che va a dragonaggia quella birra. Davvero? Stava trascendendo la paese adesso, credo va dentro stasera a casa. Stava aspettando la sorellina, capito? E poi rientrava qui. Ecco, ti ho già fatto sentire quest'anno per gli auguri a Claudio. Ah, boh. Quello mi sa che si è messo da una parte, boh. Claudio Sparviero, nonché torre di controllo. Ma non si è sentito coso. Come si chiama? Alfa Napoli. California, non si è sentito quasi nessuno, bubù. Sì, Torino. Oh, Franco. Ah, no, non li ho sentiti io. Tutti i avete dato in buon ordine. Va bene. Che maglietti è? Vabbè, non c'è sempre tanto a me. Ma io la verità è che non mi trovo. Oh, io manco lo mangio, c'è poco. Mi manca l'appetito. Ne più mangio. No, gli avrebbe fatto piacere, dai. Se erano entrati un po' di vecchi gli avrebbe fatto piacere, tipo Lando, tipo, non so, ah, c'era quell'altro tecnico che entrava sempre, e adesso non mi viene il nome, anzi erano due. Promesso un boccione, mi ha detto che me lo portava, adesso passate la testa, me lo dovrebbe portare, come se venisse a lavorare. Scappanoggio. Sì, già è tutto buono, vai. Quando è dato un cuore è tutto buono, capisci Mario? Ma io qui però mi devo andare bene. Se mi vuoi capire, c'è un'imbriaghiera che mi dice dall'anno che vieni. Allora mi dà la sa, ma la sa per l'invario, sempre con la bocchetta con bitro vino venuta a mano. No, mi hanno regalato un po' quelle bottiglie, poi il nostro cliente di Bosa mi ha regalato due bottiglie di Malvasia, davvero, e poi c'è champagne, c'è whisky, c'è rum, è un po' quello di tutto. Meglio così, meglio così. No, che io non bevo, specialmente se sono da solo. Ah, io Matteo, in casa c'ho di più e di tutto di più, però quando gioco la zura, non è come mai quelle cose. Mi sa, vabbè, hanno bisogno di un caffè appena di acqua fritta, così, ma no, non più di tanto, dai. E io usi perché sono qua. Se no, di norma, quando sto lavorando, non faccio tempo a mangiare che devo riuscire. Non è che mi posso perdere in chiacchiere. Capito? E allora, niente. Però quando oggi per dire che è pezzo, giuro che so che la giura, a chi mi vede se mi è andata la piscina, che ha detto che sempre no, che non può rimanere. E allora so che la giura è nulla, non ti mi alzo manco un culo, dimmi. Beh, in effetti, ma è così, non ti alzo il no. E cosa vogliamo fare? E vabbè, dice pure il vino. Ma va bene, dai, va bene anche... Mi sono andato a Zareta, che ha andato, e non fate male, dai. No, ma io giusto così, o se c'è gente, o se no, niente, oppure quando capita qualche occasione o cosa, ma se no, difficilmente si divisi. E adesso, ieri, malgrado che ho mangiato un bel, per esempio, non ne ho bevuto. Oggi fa vedere con te quasi ti figuriamo che digestive, ma me la ci buscio. Hai fatto bene. E via, mi chiedo muro. Ha svegliato un caffè, poi mi chiede del filo più, ma con scarlappone con l'aria. Io ci ho detto di fare. Quando non siete venuti sto più tranquillo, che andare arriva il giorno che si vede la testa di cultura già del tuo gatto. Non vedo, detto che già si va detto in Italia. No, già è forte, già, forse no, già. Allora, già è forte, già... Guarda, al minimo c'è 50 gradi. È così, l'acqua vita è forte, sì. E io, quando andiamo? No, non cade su quelle zene, ma vai tenne, come te la dico, beh, no, non mi butti giù, no. Però io se posso il vino, e sai questo ciaggio, tranquillo, sereno. E dopo la lascia accucciata, la sceglie tantissimo. Se tenderò un guanzaggio, faccio dei brinchi, ma questa è la giostra, chissà, che quando non mongo un guanzaggio, fa la giostra. Non è una testa, andiamo con il guanzaglio e comincia a beccarti nel nato, come ti va di me, alla che ne vengono. Prete? Avanti? Sera, sotto la strada questa. Ciao Mario, ben sentito. Auguri di buon Natale e di buon anno a tutti quanti, anche a Davide e a tutti. Ciao Falchetto. Ciao Salvatore. E buon anno anche a te, dai. Mi ha preso il fragrante con il bicchierino dell'acqua vita. Comunque buonasera anche da parte mia, dai. Ho voluto alcolizzarti. E me la, insomma. Ciao Salvatore. Buonasera, ben entrato, auguroni a te, famiglia. Niente. Io ero intenzionato a scenderti perché qualche giorno fa Roberto mi aveva detto che mi stavi cercando. Papà, ciao Roberto, non è che sto cercando, volevo telefonarti neanche per farti gli auguri, sai, visto che siamo sempre fatti di Natale, e invece facevo il numero e mi diceva inesistente. Allora ho parlato con Roberto e ho detto, ma non è che ha cambiato il numero, e poi Roberto ha detto sì, che hai perso la scheda e hai cambiato tutto, Mario. Ho perso il telefonino proprio, me ne hanno dato un altro dall'azienda, però a dirti la verità non lo so neanche io il numero, capito? Loro lo sanno perché quando me l'hanno dato se l'hanno segnato il numero del telefonino. Però io, se mi dici il numero vado, non lo so pure manch'io. E così che niente. Poi, la vigilia di Natale sono venuto per portare un vetro dal vetraio, ho detto poi ci passo, invece mi ha chiamato il principale al telefono, ci sono uscito correndo, ho detto magari passo più tardi e gli do gli auguri, invece poi a quando sono passato eravate chiusi e la sera non avete aperto. No Mario, la sera mi è toccato lavorare perché mi ha capitato un'urgenza. L'avevo chiamato quello che stava piazzando in Piazza d'Italia quel traliccio che avevo piazzato, c'era un problema, e ho dovuto lavorare dalle 2 fino alle 8, perché lui doveva ripiazzare il 27, doveva piazzarlo quel traliccio, e io il 27 non ero chiuso. Allora gli ho detto, guarda, mi trattengo, te lo faccio stasera, e tanto è vero, mi sono dovuto trattare fino a tardi. E vabbè, comunque non fa niente, alla prima occasione Mario, passi e così ci scambiamo i nuovi numeri di telefono, perché poi mi ha detto che non è stato bene, quindi volevo sapere magari notizie più appropriate. Aspetta, adesso facciamo fare un giro, poi magari quando ti ricapita il mic mi dice cos'hai avuto Mario. Riprendilo bene. Sì, buonasera a tutti, buonasera, buongiorno, buonasera, chi su chi sia, sono la lettera 14. Yeah, ancora buonasera, buon pomeriggio. Roberto, da questa parte auguri, salvato, vabbè, ci siamo sentiti, e Mariedo, come al solito, tanti auguri anche a te e a Falchetto. Avanti Falchetto. Caparogero, ho fatto cambiare gli auguri, la buonasera, noi stavamo parlando un po' con Mario di bevande, ma bevande leggere, acqua vite, giusto per tenerci un po' caldi. Avanti Mario. E a capa, ciao Roberto, no, ci ho tenuto in stand-by perché volevo parlare con Salvatore a vedere perché cosa mi stava cercando e niente. Tutto lì, comunque auguri anche a te, mi robe, anche se oramai è già passato, vabbè, lui c'era prima di, davvero, no, niente di eccezionale comunque il mio sabato, i soliti dolori che mi vengono quando lavori, se faccio sport, poi sono 2 o 3 giorni che sto male, perché mi fa male tutto dove sono stato operato, siccome forse non ne posso fare. Allora ogni tanto mastro lo mancantesimo a campo e dico, ma quando mai faccio un handicappaggio, invece forse mi fa più male, tutto lì. Lo so, ma bisogna ricordarselo che certe cose non si possono fare dopo che siamo con l'operazione. È abile come dov'è, come era passato le feste? Bene. Allora, ieri sera era con me, se ne è uscito, se ne è andato a Piazza d'Italia e ne è ritornato stamattina verso le 4 che era un pubblichino, anche se è fatto tutta niente leva. E niente, si è fatto la luce, si è cambiato, se ne è andato a casa del suocero. E niente, adesso che la giura in casa, però ne sto finendo questa vitrinetta e piano piano. A tempo perso e niente, cappa cappa, riprende sabato. Cappa Mario, il suo è ormai è come che un bidisome, ha preso il volo e via e ciao, è meglio così. Ok, dai Robè, Nara, scusa, com'è andata ieri? Come la fate? No, casa mia, è andata abbastanza bene, forse chi mi ha ascoltato ieri su Vibolo, ho acceso verso le 8 più o meno quello lì 8:30, ho acceso la radio, un attimino il tempo di dire 2 parole, di salutare, tum, è mancata la luce, stavamo, eravamo a buio a casa, meno male che non la attaccata, dice nel pomeriggio ce la attacchiamo, perché mi ha attaccato tutta la notte. Fortuna verso le 9:15, così arriva, perché stavamo tutto pronto dal forno, cucinando, piatta, gli ho detto, mi, oggi ci facciamo un bel caporale, invece meno male poi già si è ripreso tutto. Io invece ho avuto una sorpresa, stamattina facendo svolazione del televisore per sentirmi il giornale radio, niente, è partita la scheda video, perché si sente l'audio e il televisore è completamente scuro. Poi la scarta, sono fatto questa anche la scarta, poi la cosa bene bene. E fatto roba, provata, posta, cambiata, provata, cambiata, qui ho cambiato anche la spina, perché anch'io ho pensato, niente, ma fa un rumore, fa, e si sente l'audio, poi lui si sente una specie di rumorino forte, e poi si è partita la scheda, si è partita roba. Ma è grande, stai dicendo, quello delle CD? No, quella a tubo cattolico, quello che c'aveva in cucina. Ah, così, vabbè, purtroppo, queste cose ti capita già sempre nei momenti inopportuni, dai. Io non c'ero ieri qua, ma non è che ha fatto un temporale forte, ma davvero, a me mi è già capitato una volta, ma mi è sentita qualche scarica a Roma. E tutto può essere, perché ieri era un temporale erogante e non ne sentivo, ma continuo tutta la notte, guarda, ha fatto tanta di chi serva e rilenta, gli ho detto, guarda, guarda, si trova, ero preoccupato per la radio, ma non avevo voglia di staccarmi le antenne, c'ho un territorio generale, stacco quello di, ma avevo detto, non ne ho voglia, mi ha carabinieri, ero troppo stacco, non mi sono neanche alzato a staccarmi. Lo so, ok, comunque, adesso, mi fai l'ora giusto, ne vale anche la pena, fai un po', quello, quando la prima occasione che c'è, è una volta buona, ok, dai, ripeti, fa ok. Cappa di Rogero, via, Dorio, niente, cosa stavo dicendo, no, anche io l'ho passato a casa, grazie a Dio, tutto bene, tutto ok, riprendi, Robè. Sì, ma non è una cosa, ieri ero talmente stanco, proprio, forse è stato accumulato, stamattina mi sono pisato, anzi, con il pisato sono arrivato presto, perché era ancora buio, però sono arrivato con il capo nel letto, poi verso le 10 mi sono alzato, ma ero stanco morto, poi sono dormito tutta la notte con questo cavolo di temporali, di pestaggi e cose del genere, guarda, una cosa, però adesso già sto abbastanza bene, eh. Meglio così. Dai, facciamo girare a Mario, se no stai in stand-by che anche Mario. Avanti Mario. Ehi, ma ti ascolto, non hai messo il migliore giorno, no? Quando uno deve chiacchierare, lasciamo chiacchierare, non ce n'è problemi. Sabato, vabbè, dimmi. Ma di certo se lo stai accendendo ogni tanto, sì. Ma se lo accende e basta, che qua c'è l'ammazza da queste parti, la politica verticale. Cioè, si sta lamentando, non capisco il motivo, non penso che sia anche la pazzia, e quindi non vorrei che... Ma se usarlo tu mi, e che qua sopra, c'ho sopra le gambe, qua, quindi se usarlo è pronto mio Mario. Gappa, no, tienimelo in caldo, e quell'altro piccolino, se sta facendo funzionare, sì. Hai piccolo amore, per amore perché ti ascolti tutte le radio che vuoi, è veramente una comunità, per il resto magari molte cose non riesci a sentire perché c'è bisogno di attaccare l'antenna esterna, ma per sentire le radio guarda, per amore. E comunque stamattina sono sceso alle 10:30 a vedere quegli scemi che ci sono fatti il bagno, non me. Per vedere le vacche. No, pochi, non c'è nella musica, lo scorso c'è anche la musica, è arrivato la scenata, no? Guardo, oggi questa macchina, davvero stava anche piovendo stamattina, lo sono sceso, erano i 4 macchie e basta, buio. Ma stiamo facendo il bagno comunque. Sì, non so poi se siamo ancora vivi, ma li ho visti entrare. Ma il bagno è ben brutto, era? Abbastanza, ma poi era riparato perché stava entrando da maestrale, quindi lì era riparato, ma abbastanza forte era, diciamo, dietro la punta, la dietro la punta era abbastanza forte. È il problema, lo sai cos'è, quando esci fulmini, se non ti tratti ti fulmini, devi essere organizzato come esci subito a capatuio, asciugati bene bene e vestirti, se no guai. Perché magari l'acqua, noi siamo convinti che l'acqua è ghiacciata, l'acqua a meno di 10-12 gradi non scende, lo sai, sono fatto. Sì, no, non è che mi dentro in acqua, cioè poi hanno fatto un tuffo e sono usciti, mi hanno insegnato la faccia, però hai ragione tu quando esci. Oh, non hai visto qua a Roma lo stesso, quello che si è tuffato dal ponte. Sì, c'è un tipo anziano, dice tutti gli anni si butta, non ho visto, guarda, c'è 3 giorni, non ho neanche guardato un attimo stamattina, proprio niente di niente. Anziano, 50, 7 anni, non è che sia anzianata, ma più che altro c'è la tenere l'inquinamento, dimmi, non a tenere il freddo, c'è l'inquinamento, perché dice che c'era il Tevere che era tutto marroncino come stava fiorendo, quindi tu immagina gli scarichi cos'erano, vabbè, ma carità, vabbè, riprendi qualche... Caparoggio, e in effetti così l'acqua non è fredda, capito? È il momento quando esci che ti devi tappare, se no io mi davvero le mani, Sì, sì, fai, è davvero in quel momento. Ma a me è più esibizionismo che altro, me, perché a cosa serve non lo so. E tu Mario, a cosa fai lo bagno? La vasca da bagno me lo posso. Vogliamo che lì lo bagno. Il resto mi faccio le luci, è più veloce. A proposito di luce, ma quella caldaia, quando bisogna cambiarlo, quello giro, quello dove c'è. Quello che serve per, come si chiama? Adesso mi sfugge il nome. Quello che serve per. Per mangiarsi la caldaia, ma. Quello per non mangiarsi la caldaia. Ma quello lì non ce la mangia mai nella caldaia, cosa c'è? L'amianto c'è dentro me. Dove c'è l'accumulatore dell'acqua calda? Non mi scusi, mi hanno detto che c'è un tappo e c'è lo zingo, come non mi veniva il nome. C'è uno zingo che vuole cambiato ogni tanto. E quello lì dovrebbe essere cambiato almeno ogni anno, una volta all'anno, lo pigli, lo switch e ci metti quello nuovo. Ma oh, ma se lo switch l'acqua non esce da lì, no? Se è piena, sì, Poi non so manco dove ce l'hai posizionato, tu se ce l'hai di fianco o se ce l'hai su interfatta. No, è di fianco, l'hanno messo in posizione che venga bene, perché quell'altra si era bucata, perché quelli che avevano pensato la prima volta l'avevano messo verso il muro, quindi non potevano mai cambiarlo. Questa volta invece aveva fatto un bel lavoro con l'idraulico, l'ha posizionato in maniera che venga bene. Ma adesso io faccio una cosa, lo chiamo e gli faccio fare la manutenzione, anche la pulizia in caldo del bruciatore. Sì, accappa, perché anche il bruciatore vorrebbe pulito, controllato con un gelo per vedere se butta sempre bene, perché purtroppo sono materiali che nell'alta caloria poco poco di consumo ce l'hanno, e così che quelle cose lì almeno una volta all'anno te le devi cambiare, sia l'ugello, sia pulirti il coso della canna fumaria, e anche quel è una specie di cosa, una specie di siluro in zinco che va dentro, che però poi non è zinco, è un materiale che si consuma, davvero, anche quello lì vuole cambiato, ma se tu lo chiami o se no quando rientro glielo dico io di sentirti, ma è meglio se lo chiami tu, il numero già ce l'hai. Sì, facciamo una manutenzione programmata, perché quando l'avete fatta l'anno scorso, con l'idraulico ha cambiato anche i filtri in entrata, quindi dove effettuare la parte entrata, ma i consumi si sono dimezzati, veramente, sembra una fisseria, non è una fissazione, perché io non l'ho fatto, si sono dimezzati, quindi io l'ho fatto, almeno così sono tranquillo. Ok, riprendiamo bene. Sì, avete usato lo spinotto, dai, continuate vi ascolto, dai, un attimino poi riprendo. Va bene. Ok, capito, sì, appena detto, quando vi aprite intanto? Lunedì, il 4? No, noi come attività apriamo sì, cioè il 7 mattina, perché il 6 è l'Epifania. Ah, giusto, perché lunedì è 4, martedì è 5, mercoledì 6, quindi esattamente giovedì, avete fatto il ponte in poche parole, fatto il ponte di lunedì. Cappa. Sai che c'è il giaggio a Bottubuio, cosa manda a fare, non c'è niente. Sì, c'è un po' di crisi, perché io per un giorno avrei saltato, intanto, non è che sia... Oramai arrivati a questo punto, tu per quella rubinetteria non hai mai deciso niente, non ci hai fatto sapere mai niente. Hai ragione, non ho deciso niente ancora. proprio, perché proprio, però prova che hai detto tu, per la questione della crisi, perché ci riammassa, bisogna andarci piano, e quindi sto aspettando, intanto meno male uno sta funzionando, stavo aspettando perché mai visto un anno così brutto, meno male, 2009 manco mezzo uscito. Speriamo che quest'anno sia meglio, che ci sia un po' più di ossigeno. Sì, no, addio, se non c'è quest'anno, allora ne vedi gente a gamba all'aria, mamma mia. Ok, riprendi fa te. Cappadocio, io adesso faccio un attimo il bianco, vado a prendere un pacchettino di sigarette, sempre che riesco a trovare qualcosa aperto, luce. Ma è tutto chiuso, ma forse quegli automatici ci sono lì. Infatti vado all'automatico. Hai con la testa la sanitaria, lo sai? Sì, se non te l'ho dato sigaretta. Ok, allora guarda quel segreto alla ricerca della droga. Ok, va bene, ripeti, ma... Io la droga adesso l'ho sempre portata di mano. Allora, non ho dei problemi. E se poi finisce? Non si muove, Roma. No, per carità, ci mancherebbe. Niente, guarda che quando rientri io passo, però mi devi dire che giorno te lo devo portare e a che ora te lo devo portare, così risolviamo quel problema. Allora, facciamo così, noi ci sentiamo il 7 e poi abbiamo l'appuntamento, perché non so neanche io cosa... Sembra la solita cosa, quella priorità là, ma è poca adesso. È poca, ma è un bel fastidioso, perché ogni volta che spostano il furgone, gocciola in un punto diverso. E siccome l'altro giorno l'abbiamo portato da quell'altro amico là per controllare l'impianto elettrico, perché c'aveva un cazzo che non mi funzionava, il piede di cristalli che funzionava quando se ne ricordava, tante luci elettriche che non funzionavano bene, e niente, gliel'abbiamo portata, ma gli toccato il furgone, una rottura, è fatta a nuovo, ma lo piscia, e adesso li mangi. E noi la guardiamo, che dava lo piscia, per il resto sta a posto? Guarda, per il resto è un gioiellino. Per il resto va che è una meraviglia, guarda, sono andato a Cagliari la settimana scorsa ed era un treno. Meglio così, ci passo un attimino, così. Così mi dai anche il numero, così se ti devo ritracciare sono ritracciati. E poi prendiamo appuntamento. Ma volevo dire, ma a proposito, adesso mi è circolato, ma ricordi quella base magnetica, la stai usando? Quando viaggio sì, ma se ti serve te la do. Aspetta, ma quella grande sei? No, se non la tu non c'è problema, tieni, ci mancherebbe. Se lo state usando, siccome nel doblò non ce l'ho più fatto, io no, adesso non ce l'ho più per il furgone, c'è un doblò, però non voglio buttare, hai capito? Non me la puoi buttare, non la voglio buttare. Però niente, se mi arrangio il rilassamento, gliela faccio la rondaglia. Ma se la vuoi io lunedì te la faccio, non ho problemi. Al limite vuol dire che quando viaggio anziché portarmi il baracchino con la base magnetica, vuol dire che mi porterò un portatile, giusto per salutare gli amici quando li cruci. Non lo so, se ti viene bene sì, se no non devo ti preoccupare, già mi arrangerò assolutamente. Comunque, veramente quello che mi interessa più è tutto avere i tuoi numeri nuovi. E così ti va anche il mio, perché ripeto, se no ho provato, compagno, ma provate anche quello di un altro che c'ha lì, quello uno più basso, quello che usava Davide, e anche quello c'è più. Ma l'ha perso anche lui. Mega forti, sì, ma studiando sta Davide, a scuola andando sta. Che ci vada, caspettina. E lavoro come lavoro, ma? Ma lavoro da noi. Che ripeto, io anche l'altro giorno sono dovuto andare a casa. Già c'è qualche cosa che si muove, ma a confronto a prima niente. prima stavi sempre correndo da una parte all'altra, invece adesso quest'anno qui c'è stata un po' di crisi anche da noi. E che abbiamo avuto crisi? Tutti i settori, dal primo all'ultimo, certo, speravo di dire che sono inverso. Vabbè, finita è questo schiotto. Ah vabbè, infatti si dice, ti sto ascoltando, ho sentito cose buone del lavoro, dipende dalle crisi. Cioè i settori, i petrolieri già avevano esempio, i marchieri li assicurano sempre. Sì, vabbè, no, ma chi più che meno, magari c'è gente che ha sentito di meno, di più, però è anche il consumo appunto, non ci sono soldi alla base, a chi deve spenderli. Quando non gli avanta molto, quindi non possono spendere grosse quantità, eccetto in un'occasione tipo Natale con le tredicesime e basta. A proposito, poi con i prefetti di quell'otto niente saputo bene. Allora, Marcello dallo sportello prima non c'era, poi forse qualcosa l'anteriore, è molto importante l'anteriore, il posteriore l'ho trovato da Cosmino, però tutti Parappango e Faro si trovano di concorrenza e non costano molto, costano poco. C'è il discorso del braccio oscillante dell'ammortizzatore salvato, quello lì o si trova qualcosa di usato o se no bisogna andare a comprarli di concorrenza. Siccome mi sono indicato, mi ha chiamato ieri mi ha chiamato per sapere qualche cosa, perché se quello così la voglio iniziare subito. Vabbè, ma facendo il metodo di concorrenza un botto lo puoi fare, vabbè. No, ho già preparato il conto, però sto aspettando la risposta dello sportello, Salvatore, perché lo sportello dobbiamo prendere per conto usato, perché ci sono serrature, maniglie, eccetera, eccetera. Se ti metti a comprare la pizzi, non ti passano 700-800 euro. No, la ragione. E come lo sai, Robè? Lunedì. Allora, io ho chiamato, mi ha detto poi, richiamami dopo un quarto d'ora. Me ne sono dimenticato, ho chiamato la sera non c'erano. Che dice, erano, mi ha risposto il custode, che erano in come si chiama, già chiusi. E lunedì dovrebbero riaprire, e li chiamo lunedì. Infatti me l'ho messo sul tavolo proprio per non dimenticarmi. Sono adesso aperto, la metà su, ci si apre da niente, l'hai visto? No, non l'ho visto, l'ho sentito, mi sembra che l'hai detto tu proprio, no, non l'ho visto, non l'ho visto. Ma quindi non c'è più Alghero, se fa sui tassassari. Sì, è meglio quello, se fa sui tassassari c'ha sempre gli stessi collegamenti che aveva prima con Iglesias, con Carbonia e con Cagliari, per cui solo che quello lo teniamo come seconda ipotesi, perché se dobbiamo risparmiare, perché loro hanno sempre un coso loro di sopra, ci mettono qualcosa da sopra, perché qua Tassari non hanno quasi, ti hanno ricambi originali, gruppo Fiat e gruppo Renault. Originali, nuovi. No, non lo sapevo, so che stava crescendo, perché insomma, so che è attrezzata bene anche a livello proprio di proprio organizzazione interna. Però che avesse anche ricambio non lo sapevo. Io ho visto, lo sai cosa dove l'ho visto, lo sta cercando anche robe. Comunque abbastanza del materiale dentro. Quando vado a Bitti, passo da Bossieri, no? Prima di arrivare al Sino, allora devo sapere che c'è Petretto, un po' prima, c'è uno sfasciacarrozza anche lì. Ma non è sfasciacarrozza, è quello un deposito di auto municipali, come quello che avevamo noi sotto il ponte, di macchine sequestrate, almeno per quanto ne so io. Ah, beh, non lo sapevo, io mi sono chiesto le macchine lì a posteggiate, così ho pensato che fossero sfasciacarrozze. Anche io pensavo, però mi hanno detto, solo qui ho visto ci sono anche cassonetti della Molletta, l'hai visto, c'è un po' di roba comunale, tipo un deposito comunale qua. No, quello non l'ho visto, quello sinceramente se passando ci vedono queste macchine e basta, non ci ho mai fatto caso ai cassonetti, vabbè. Ok, no, comunque se mi chiama gli dico che lunedì in giornata riusciamo a quantificarglielo. Eventualmente tanto qui se d'accordo la può iniziare anche subito, vabbè. Sì, quello basta portarlo a sinistra, non c'è problema. Ma sportello ce l'ha uno Cosmino, mi pare 70 euro ne voleva, bisogna andare a prenderlo prima che se lo venda. Speriamo che si trovi l'anteriore. Oh, io mi sto fidando che siano uguali la berlina con la station wagon. Dovrebbe essere così, perché ho chiamato anche la Opel e non mi hanno risposto. Questi balurdi, cacchio, io poi dicono c'è crisi e non rispondono al telefono. Lì c'è un disordine vero. Ma non è questa parte su vabbè dai. Ok, riprendi Mario. Hai capito quante cane morto? Ma è già Roberto, dice dipende dalla crisi. Anche se dobbiamo dovesse pomare tutti gli altri recusini e aumentare il travaglio. Ma non so se va per lo sapone, quando ci sono le prime piogge vado io col sapone facendo finta niente, al riavolo per lo vostro grosso. E c'è gente anche amici, con Marco Comiti sono andato, quando stavo rientrando, allora, mi invito allo spazio di traffico di Via Porto, dove si prende la 4 corsia, no? Di fronte, come ti posso dire, di fronte a Bricoline, c'è una macchina, una Mercedes sopra lo spazio di traffico, al centro, ce l'ha preso in pieno, c'è salita sopra, e quindi immagino che non gli ha fatto sotto. Non so, purtroppo, io non ho sentito per i giornali, speriamo non si sia fatto male nessuno, ma considerando che ieri c'era quel corso di Laura Pausini a Olga, che ne sono andati da tutta la Sardegna, mi auguro che nessuno si sia fatto male, perché non è andare, probabilmente è andato domani che pulire la fretta alle persone, con tutta l'aria che c'era ieri di acqua, eccetera, eccetera, speriamo non si sia fatto male nessuno. Quello è quello, ma guidano anche in maniera, dai, roba da scemi, distratti, distratti e poi ci camminano, poi oltre che sono distratti ci camminano, quindi insomma le cose mi hanno dato battuta sui fili. Quindi, anzi, tu dici lascia che succedano queste cose, dovrebbero robe. Vabbè, anche noi dobbiamo lavorare, però che le persone non si facciano niente, è riuscito. Oh, anche tu c'hai, per certificarsi, anche tu parli un po' meno di me, però anche tu qualche problemino male di meccanica viene e te lo fai anche tu. Sì, sì, viviamo sui scatti del gas, viviamo, mi prendi là. Hai visto che il cane è morto, che fa fatto, ma lui addirittura col secchio, col detersivo, ha buttato nella strada, così ci sarebbe detto di prima. Giulia, già va bene, là. Oh, è meglio che ce la pigliamo a scherzare, intanto, grazie. È un casino. No, io ieri ho tamponato un po' di strada. Stavo rientrando da Sennuri e siamo arrivati giù alla discesa di Lugolento. E questo qui cazzo arriva al centro della curva, non piglia e blocca la macchina. E io ero dietro anche sanfanato. L'ho toccato, non è che non l'abbia toccato, non ha fatto niente per fortuna. Però sono arrivato lì piano piano, boom, toccato allora la macchina. E gli ho fatto un graffietto nel paraurti, ma se li siamo andati tranquillamente, io ve l'ho incazzato niente. Dici scemo, cazzo, arrivi dal centro della guida e si è bloccato. Bluh. E tu cosa hai fatto, Mario? Niente. No, ho fatto un graffietto a lui nel paraurti di dietro, perché ci sono, l'ho visto, ho frenato, però la strada, essendo vicina, ha patinato un pochettino, e anche piano piano, però ci sono arrivato e l'ho toccato tutto lì. Mi ha fatto un graffietto, ha detto, non è nuda, e ce ne siamo andati. Ma i condelli ieri, allora? Scappa. Ma pensavo che mi trovavi tu, ma io, ecco perché hai detto, mi sei detto, non faccio niente, e lui mi ha detto, scusa, non è che ho trovato una persona di quelle che poi non si sono messi a fare i drammi? Gappa. Ma adesso stavo provando, perché appena che sono sceso si stava toccando il collo, una bussata. Poi c'erano gli altri che erano dietro di me, perché per un bel uno mi entra dentro uno, sotto il camion mi da dietro. Perché proprio questo qui è arrivato al centro della curva e si è bloccato. Almeno metti da una parte, lì c'è lo spazio, ma hai visto quando hai finito la discesa sulla destra che c'è qualcosa di macioni e cose, c'è quel piccolo parcheggio sulla destra, vattene lì dentro, no? No, è arrivato al centro della curva, boh, si è inchiodato. Ma niente, va andato dietro, magari. Ma era di qua, era gente del posto. E cosa ne so io? Poi ce ne siamo andati e via, l'abbiamo schivato e ce ne siamo andati, non è che siamo rimasti lì. Però, ma guarda che imbecille, ragazzi, è arrivato al centro, boom, inchiodato. Boh, almeno ci fosse stato un motivo, so, un cane, un animale, un qualcosa. Ma non vedo nulla, è arrivato proprio al centro della guida, boom, è inchiodato. Io qualche carrozzere fermarsi subito allora me l'hanno fatta anche a me, mi ha portato a Travoletto, mentre mi ha portato, stavo scendendo, camminando all'incrocio con Via delle Vigne, ne è uscito questo qua, mi ha preso in pieno, proprio di quegli incidenti che non puoi fare niente, che ti ha già pennato, mi ha tagliato la strada si è avvicinato questo guardi, io se vuole la posso consigliare, un carabiniere, la consiglio, la mando da questo amico, con la nome mio, la trattamento, ha detto, guardi, lasci stare, che sono anche io carrozziere, ha detto, non c'è bisogno, ci è rimasto male però. Come carabiniere era? Ben messo in realtà. Poi passava la porta, ha detto, lo portiamo su caratteristica, chiamato lui, arriviamo sotto il ponte di Santa Maria, sotto il passaggio di Santa Maria, e le gatti in alto, dove entro la macchina, stavano detto, in 5 dentro la macchina, con gli amici miei, perché altrimenti non ce la potevamo tornare, e le gatti in alto il bilancino del coso, sopra la macchina, noi eravamo dentro, ci volevamo fare massa, ma noi eravamo sulla ritmo che dura, se era una macchina più piccola ci avrebbe schiacciato la testa. Insomma, era una fermata la giornata, non bene. Un'avventura era, ha detto, oggi vado a vermi, siccome era più in basso sotto il passaggio, lui l'ha tirata su col bilancino la macchina, e la testa l'ha agganciata, come siamo arrivati al petto di Santa Maria, sotto il passaggio, parlo 20 anni fa più o meno, che era molto più basso di adesso, ha toccato la gru, il bacio la gru e è caduto tutto in testa a noi, ogni rumore, ma noi abbiamo sentito un rumore fortissimo, ma al momento non ci siamo resi conto, cosa è successo qua? Ci accadciamo al furo, ha detto, ma era male, che era al ritmo, se era andata una banda, che di solito stava per far sapere chi c'era. Ma non è che era quella, no, non ce l'ho, non te lo dico chi era, ma mi immagino chi poteva essere. Già te lo immaginate, un carrozzere che c'ha il carattere si diceva portatore, se non c'è problema, dai, non facciamo altri nulla. Ma il saluto disse, non ho sentito altro, non ho sentito. Poi come mai non si accorge che non ce la fa passare? Perché allora potevate viaggiare sulla macchina, adesso mi dice che è vietato minimo, se metti la macchina sul carattere non ci vuole essere passeggeri. Già lo credo, ma anche prima era vietato, solo che noi eravamo a piedi, cosa facevamo a tollarci, salvato. Quindi, tanto che stavi preso, non riuscì a camminare. Tu c'è la presa che tu scendi verso il porto, la via principale portatore, scendi in croce dove c'è il distributore che porta via le linee, l'hai visto quel distributore agile? Sì, sì. Tu sei cammino traffico, se ne arriva uno ti prende in pieno sulla ruota, me l'ha sradicato la ruota. Quindi cosa si è fatto? Lui si è fatto un bel di danno. Vabbè, lui mi sembra che era un alfa, in proporzione vari di danno meno di me, però i pezzi costavano di più i suoi, o poi ci erano due uomini anziani, una donna, un marito e moglie, non so cosa stessero pensando. Io se fossi stato un po' più attento, secondo te volte quando sei in compagnia, eravamo 5 ragazzi scherzando, ridendo in macchina con lo stereo, tutto quanto, magari capitandomi adesso forse l'avrei anche deviato, però se c'è una cosa camminare solo attento, quando sei in compagnia molte volte ti giri, parli e stai camminando così di inerzia. Probabilmente adesso, stando più attento, l'avrei anche potuto scrivere, però lì ero proprio mezzo distratto, mi ha preso in pieno e non ho potuto fare niente. Capita, c'è anche una questione di fatalità, perché certe volte basta niente e non eviti, poi invece basta certe volte un minimo di frazione o da una parte o dall'altra e poi succede il fatto pratico. Ok, riprendiamo. Quando ti piglia così all'improvviso, io perché ti credi che mi è successo? Ero tranquillo, parlando con mio figlio, ma mai pensavo che quello lì si bloccasse al centro della curva, senza motivo poi. Però sono arrivato a toccarlo ugualmente, in maniera minima, quasi invisibile, però l'ho toccato. E niente. Purtroppo quando deve succedere, succede, ma meglio che succedano sempre così, gli incidenti, che nessuno ci faccia male. Fare non ci si faccia niente alle persone, più le macchine si aggiustano, o si riprendono o si aggiustano, uno e due, che si è fatta l'aria nera, fa poco ne scende nuovo l'aria. Sì, oggi hai previsto tutto il giorno l'acqua a salvatomi, domani invece è buono, la giornata di domani è sereno tutto il giorno, fai dalla mattina, dalla stanotte, infatti ho visto le previsioni, tutta la giornata, fino a domani mattina presto, acqua. Sì, ma si è fatta l'aria nera. Per uscire sempre vero, speriamo che cambierà la mia moglie, perché guarda, è giornata a in casa oggi. Di come andare, fa più da freddo, un momento di mangiare, infatti anche io e mia moglie rimaniamo, e mi sono andata mia madre, ci ha invitato a mangiare, ma roba veloce, ho detto, io ne torno a casa e basta, domani mattina, se Dio vuole, vado a controllarmi la banca e faccio un giro, mi va, ti do un colpo di telefono, e mi va, la colpa mi va, la Mi ha collegato quel filo salvatore. Ho pensato solo il telaio in terra, ci ho messo tutti i radiali, tutto pronto, pronto per lassù. Solamente che devo fare lo scambio prima, no? Devo togliermi la bibanda, la sposto sotto il palo della manto, ma la metto sotto come la c'era la cassa, se no è il palo della manto dove c'è la bibanda, me lo uso per quella lì. Ma è impossibile lavorare, c'è freddo e ogni tanto arriva gli scrosci d'acqua, arriva la bomba. Esiste, no? Bisogna fare le giornate asciutte, poi quando c'è vento non le va a vedere. Ma ecco, perché il tuo gommone è salvato, adesso siamo al termine, no? Non ha messo lunedì, lunedì 4, sì, lunedì dovrebbe portarlo, adesso lo sento di mattina, solo che ho fatto un tempo ancora per il bilancio, vabbè, cioè sono trascurato al massimo, adesso in settimana mi ci metto in impegno, così lo faccio, lo vado a vedere, se ce l'hanno poi solo me lo ordino. Forse no quelli, ma il gommone non va il gancio, non va bene, dai. Ricordati che lo dobbiamo vedere, dai, ma lo fa vedere. Senz'altro, spero che l'abbia fatto, l'abbia acquistato bene. Però, insomma, io ho parlato con un sacco di gente, tutti hanno detto che è un ottimo gommone, va bene, tutti hanno detto che naviga bene. Qualcuno mi ha detto che è un po' insufficiente di motorizzazione, ma non è sufficiente, siamo in due, di solito che andiamo, per me chi mi ha fatto la cura lo so di essere insufficiente. No, che cazzo devi fare le gare? Quello di quel gommone lì si farà oltre 35 nodi con quel motore, lo usare. Apposta, no, ma io non ci devo andare 35, a me piace, a parte che anche durante l'estate c'è freddo a 35. No, quello è pericoloso, ma sta scherzando, se cade l'acqua a quella velocità ti ammazzi. No, cammini tranquillo, a parte che costa la benzina. No, bisogna andare piano perché costa la benzina. Non è più come prima che ti facevi la mezza giornata camminando e spendevi 20 mila lire, allora ci venivano le 50 euro per fare gli stessi giri di 15 anni fa. Sì, no, è così, bisogna anche mudarsi in quello. E tu vai a controllare l'attuale, perché con l'acqua che hai fatto, ma cos'è? La tirano se entra l'acqua o roba? La tirano, come ho detto? Che l'acqua c'è, cosa, l'autosvuotata la tua? No, l'ho modificata, l'autosvuotata, ma l'ho modificata io, la barca, per sicurezza, non si sa mai, l'ho chiusa completamente ermetica adesso col tendalino, e l'ho fatto io chiusa, proprio una gabina in più, diciamo, perché è proprio fatta perfettamente stagna adesso, non entra di acqua. Sono per il maggior sicurezza, ne monti una sentina tipo quella col tipo l'autoclavero, con la batteria a parte ovviamente, perché se poi si incanta al massimo ti butta la batteria, e sei tranquillo, se l'acqua dovesse entrare, quando arriva con il velo, poi in automatico si attacca. Ma non mi è mai successo, ho fatto un aggiovito di Eva con la barca, a me tanto che mi preoccupa un po' gli ormeggi, perché quel pontile è maledetto, non sbatte troppo il mare, uscirà troppo, infatti me l'hanno molto allontanata, però c'è un barco vicino, ce n'è una a fianco, cacchio, che c'ha i motori, io siccome entro di poppa, questi sono entrano tutti di prua, e c'ha i motori sollevati, c'ha la ausiliaria, c'ha 20 cm dalla barca mia, cioè per caso si mollano gli ormeggi su mi distrugge la barca mia, infatti una la mia l'hanno legata anche a un'altra barca che c'è a fianco, in modo che uccidono insieme, perché si muove troppo quel pontile, è un pontile provvisorio, infatti chi mi ha detto che lo conosce come l'hanno fatto, ha detto questo pontile è un paio d'anni e ce lo porta via al mare, speriamo che finiscano subito i lavori, così magari me ne rientro dove ero prima, perché non mi è venuto da dove sono. Ma poi tu potevi scendere stamattina per l'altro, ma anche un po' tanto, ti facevi una scappata e a controllarli così, tranquillo. E tu Mario, già preparato con la birra? No, io la stavo facendo, però poi era aumentata un bella resina e ho sospeso. Ma dimmi una cosa, la barca ti sei venuta e ti sei preso il gommone? Ah, ma io ho venuto a barca e ho preso il gommone. Ho fatto quello che dovevo fare da 2 anni fa. Ho fatto la fissione per la retramente e adesso dato io sto uscendo poco, ormai gli impegni sono talmente tanti che non riesco più a uscire, quindi rimaneva sempre ormeggiato, cioè almeno quando voglio uscire attacco e parto, ma. No, io sono un gommone, però non trovo nessuno che mi faccia due rattoppini. Cioè, ho due perdite piccoline, il gommone di mio figlio. Cioè, due buchetti, cazzo, non riesco a trovare nessuno che me lo rattuppi. Oh, Mario. Che gommone? È uno Zodiac, quello di arancione. Aspetta un attimo, quello di fucile o quello in cosa, in tela? Boh, non lo so se è tela o se è PVC, ma mi sembra che sia PVC. No, se PVC non c'è niente da fare, mi ti fanno un raccolto provvisorio, però no, quelli sono elettrosaldati quel gommone. Ma tu vedi, quanti anni c'ha questo gommone? Non lo so, era quello che c'aveva, non lo so se tu l'hai conosciuto, a Marco, a Paromeo, là che entrava al baracchino prima. Ma tu non l'hai conosciuto. Tu no, non lo so. Perché dove ne abbiamo fatto una pezzi qualche settimana fa, quando ce l'hanno salvato, l'hanno legata a mio fratello, era nuovissimo come tessuto, c'aveva un paio di buchi, però quello era ancora in tela, infatti era un piccolo di gommone, mancava il pagliolato però, vabbè già se buddiava, mi ha recuperato tutte le maniglie per l'altro, io non ero un piccolino rosso, però non sai che te li ripara i gommoni, dove c'è quello l'edificio San Marinese, Dario, lo conosci? Quello l'edificio San Marinese, dove? Vieni nella zona più o meno. L'aeroporto è da sinistra, giri, che c'è anche il coso, come cavolo si chiama, l'officina di meccanica, che è Gabriele Pugioni, soprattutto. Sì, Gabriele Pugioni, c'è che mi fare a quelli di PVC Pro, anche, vabbè, è che ci vuole un macchinario particolare, ho detto, quello lo stavo prendendo io, quello lo tipo di Zodiac, tutto mi sono bloccato per quel motivo, ragazzi, che l'unico che li può riparare è quello di Tempio, questo santo, che c'ha, è un lumico per le parole, e lui c'ha il macchinario che può fare la riparazione anche dei comuni PVC. Sì, no, capito, fratello, però aspetta un attimo, Salvatore, andiamoci cauti. Lui costruisce i teloni in PVC elettrosaldati, uno dei pochi, e avevo comprato il carrello, motori, tutto da lui, già lo conosco bene, Santo, diversi motori, Danilo ha preso lo stesso un paio di motori lì da Santo, già amico, molto amico di mio zio, infatti io sono andato tramite lui. Però il discorso, lui fa le elettrosaldature sui teloni, cioè ti costruisce un telone e ti fa le saldature, però la coppia è un gommone diverso, c'era questo a Cagliari che li faceva, però Santo, io non ho ho sentito di parlare con voi. Te li fa anche questo Dario, però è un collaggio, non è affidabile come come si chiama, la tela, quella normale dei comuni, tipo quello che c'hai tu, Salvato. Ti riesce a ripararlo, però non te l'ho garantito l'incollaggio. Perché a me me ne ha fatto uno di canotto, piccolo, detto, vabbè, io te lo faccio, però non hai la stessa resistenza di quelli elettrosaldati. Sì, no, ma non è questo di Santo, non l'ho detto a te persone, ho portato da questa radio, e non c'è nove in mano, non è Gabriele Pugioni, la Renault, quella del capannone dell'ufficio di assistenza Renault, entri con lì, e poi attaccato dove c'è la Genovese, gira a sinistra, per andare al capannone di Pugioni, un po' prima di arrivare a lui, sulla destra, trovi questo capannone dove si vede che ci sono un sacco di gommoni, sia fuori che dentro. Ma non sarà attaccato a quello che piace di quello che camionano, che entri dentro, che in fondo a destra. No, poi quello ci aveva l'officina Mele, il carrozziere, un tiro Mele. No, aspetta un momento, tu entri dalla LGG, giusto, Genovese Gomme, entri lì. Come tu entri, lasci la LGG e c'è un capannone all'angolo, giri in quell'angolo lì ed è sulla destra. Di fronte c'hai a questa sera, quando la finisce cieca, no? Allora, di fronte ti trovi a Pugione, nel capannone di Pugliese di Pugione, sulla destra trovi sia uno che vende gli amici, come fa il signor Roberto, e attaccato c'è lui che vende, che ripara gommoni, non so sbagliare. Dall'altra parte della strada non me lo ricordo, ci sono dei capannoni ma non me lo ricordo. Comunque non c'è da sbagliare perché ci sono dei gommoni. Già ho capito, là. Ho capito perfettamente dove c'è il colorificio di coso a fanculo, che sono alghierisi sono loro. E quello di colorificio San Marinese, quello lì è proprio di alghero. Ho capito. E sapevo pure il nome, cioè so il nome, però adesso non mi viene il giudico. Ciao, lui è. Ho capito là, no, casomai mi avvicino e ci parlo là, perché io ho quel gommone che è sempre buttato, il gommone di mio figlio, e niente, perché aveva due buchettini, ma invisibili, mi pensa che si sgonfiava un po' dopo due giorni, però quando sei in mare in mezzo che il gommone si apposta. E il pagliolato ce l'ho vicino al capannone del falegname, là, che l'avevo tutto quanto ristrutturato, tutto quanto fatto, e poi non l'ho mai usato perché avevamo scoperto che c'erano questi due buchetti nel gommone. Adesso vedo, se me lo riparano così lo devo mettere in acqua a mio figlio. E niente, poi io quando ci avrò tempo mi dovrò finire la mia barca, perché l'ho svuotata tutta quanta, l'ho portata a zero, l'ho smontata tutta, perché c'era quella specie di poliuretano espanso messa a pistola, però era tutto zuppato d'acqua, la barca pesava troppo. Allora me l'ho tolto tutto e ho iniziato a fargli un pochettino il fondo con della vetroresina per rinforzarlo, però poi l'ho abbandonato perché ho finito la resina e sono andato a ricomprarla da 2,50 euro che la pagavo, che è salita 6 euro e mi hanno detto quando alza il dollaro dice la resina scende, così che dice conviene aspettare. Adesso vedo se hanno nuovo e dollaro se ne prende, che la resina abbassa un po', me ne ripiglio una cinquantina di chili e così mi finisco lo scafo. Mario, spigliato. I buchettini li hai ritrovati dove sono tu? Sì, hai visto dove c'è la battuta dal gommone, hai visto dove ci sono i manigliutti, c'è quella specie di battuta che per quando ti appoggi nel molo cosa, in modo che non te lo rovini. Ce ne sono due al centro del gommone tutto, ma ci sono due buchettini e sono anche uno vicino all'altro. Aspetta un attimino, è sul bordo della gestione del parabordo questi che stai dicendo, questi buchi, o è sopra del parabordo? È sopra il parabordo, però è proprio lì a fianco. Perché se sono buchini, parliamo punto di spillo, punta di ago, ti prendi un po' di attack e riesci a ripararli. A me non ne ho fatto tantissimi, anche loro fanno così quando sono buchi entro la misura dello spillo, diciamo, del foro dello spillo. Se sono più grandi bisogna intervenire con rattoppo. Allora, poi mi sembra trovare due pezzettini di quella plastica in arancione, lisigarli bene e farli un poco a un rattoppo, tipo come si faceva nelle camere d'aria delle biciclette, delle moto. Sì, ma c'è un buchettino piccolino, Mario, ma ti posso dire quanto una punta da 2 mm, ci metti lo sgonfo il canotto, proprio lo fai in piano con quel tubolare lì, e li metti là, lo lasci affissare ed è una bomba, non te ne esce più. Bisogna parlare, adesso vedo il consiglio da quello là pure e vedo un poco cosa si può fare. E niente, poi mi dovrò continuare anche la mia barca. Gappa, purtroppo quando c'è gli acciacchi e il tempo non ti assiste è un casino. Chi lo dici? Beh, sono fatto. Sai cos'è? Che se sono due buchettini ha ragione Roberto, si prende l'acqua che neanche, non c'è bisogno che il problema sulla parte. Pensavo, ma non ci aveva il tagliolato in legno quel tipo di gommone, ma... Il tagliolato non è in alluminio su quel tipo di gommone che non è uscito in alluminio? No, il tagliolato è in legno. Io ne ho visto da... uno era tagliato in legno e poi l'altro era in vetroresina direttamente, e quindi è un tuo modello. Ma in legno, non mi ricordo, era un'altra serie che mi faceva in legno, mi sembra. Ma la Televarte l'hanno fatta sia in legno che in alluminio, Salvatore. Poi la Tele Futura erano in alluminio. Lui probabilmente c'ha un Mark II, che cos'è? Quello nero, cioè il rosso con la tubolare nero, così è andato. No, è tutto arancione. E i cosi sono, i parabordi, diciamo, quelli sono neri. Il cono finale non finisce nero? Mi sembra di sì, dove c'è la saldatura dietro, mi sembra che sia nero. niente. Quelli li hanno fatti i primi, proprio i primi in legno, pagolato in legno, e poi successivamente sono passati in alluminio, che è la cosa migliore, perché in legno si consumano scivoli eccetera eccetera, in alluminio erano i migliori di tutti. Chi li ha pneumatica naturalmente, Mario, così è. Chi li ha pneumatica gonfiabile, cioè. Sì, è tutto gonfiabile quello lì. Allora, quello lì è tutto gonfiabile. Ma quanti metri è, Mario? 4 metri. E no, noi avevamo anche 2, perché Mache 2 era 4,20, no beh. Sì, c'è 4,20 e anche più grande l'hanno fatto, però forse hanno fatto il 4 metri pure, non sono sicuro, dovevo guardare. Perché ne hanno fatto diverse misure di quella serie lì, c'erano anche i più piccolini, 3,80 m, quelli che usavano come tendere, adesso non è che sia a memoria, non mi ricordo bene, però mi sembra che c'era anche il 3,80 m facevano, i 4 metri, 4,20 m e 4, non so se era 4,60 o 4,80. Comunque, 4 metri è senz'altro più sicuro della barca, dell'altra barca, Mario, io l'avrei messo a posto quello. No, ma la barca, sono partito con l'intenzione di farmela e me la faccio, non è che, perché a comprarmene una nuova come piace a me costerebbe troppo. Invece io questa qui l'ho tutta quanta smontata, anche perché poi ci devo fare la cabina, capito? Ci devo fare la gabinetta piccolina, come tanti scarpe che ci sono a Porto Torre che hanno quella mini cabina dove ci puoi sedere e stare un po' rilassato, là. Ma io, come sicurezza, io ci vuole meglio il gommone, ma specialmente quel tipo di Mosuria che era un bel gommone, chissà perché poi l'hanno fatto in PVC, vabbè. Allora, il PVC come tecnologia è superiore alla tela, perché ha una resistenza superiore al sole, eccetera, eccetera, e gran lunga superiore. L'importante è che non lo buchi, perché come tenuta di aria, di portare pressioni più alte, non hai problemi di distacco, per dire, il problema dei comuni, quelli in tela era quello. Siamo le giunzioni col tempo, si sollevava, te ricordi, appena muovevo la mano e poi piano piano iniziava a tirarci l'aria dentro. Se è tenuto bene, benissimo, il gommone, quella tela ti dura una vita. Io ne ho uno, guarda, 40 anni ce l'avrà, ed è sempre andato. Però quella di PVC è come una camera d'aria, una volta è tutto sigillato. Se non riesci a fare i buchi, ti dura una vita lo stesso. Sì, no, io ho avuto un'altra serie, quello grigio in tela, che posso dire che, guarda, navigava bene, trovava il mare, ma poi, una via quella non l'avevo preso il pareare di Chigi, il superalcione, però quello con la chiga pneumatica sempre su me l'avete usato. Sì, già l'ho conosciuto, ma è cambiato tanto, allora, la tecnologia di quei gommoni che stai facendo tu, c'è un abisso rispetto a questi nuovi, tipo quello che c'hai tu, il Marshall. Quando proverai quello me ne dirai, capito? Stiamo parlando una 500C contro una panna nuovo modello, diciamo. C'è una tecnologia completamente diversa, una tenuta di mare, una resa con le potenze 10 volte superiore. Perché quel Marshall che c'è tu è un gommone abbastanza pesante, però c'è una tenuta di mare allucinante, con potenze non eccessive riesce a camminare anche veloce. Il Zodiac era l'ultimo gommone, però stiamo parlando di tecnologie diverse, perché c'era la chiglia gonfiabile, sull'onda era morbido, però da dove è mai formato non fai nulla, con tu invece l'onda la infrangi e ci passi sopra. Sì. Prima di fare la battaglia, Robè, sarà da vederne uno, cosa ho letto tu a... dopo il ponte del Tiso, cosa c'è prima di prendere ma secondo me c'avevo un Zodiac che proprio un PVC con chiglia in vetro resina, già l'ultima versione, ma bello abbastanza, solamente che mi hanno scoraggiato cosa ha fatto il PVC, perché tutti mi hanno messo in allerta. La fregatura è quella lì, sono 6 buchi, purtroppo è quello lì, non c'è uno, o se c'è sono pochissimi che te lo riparano, è quello lì la fregatura, anche se è molto duro come materiale, cioè a strapparlo è molto più duro della tela, se devi fare un'abrasione resiste molto meglio che la tela, perché la tela è proprio una tela, ci sono delle fissure che c'è un prodotto protettivo sotto, quello è un corpo unico, per cui c'è una resistenza superiore, anche se fa un'abrasione prima di entrare in profondità è un po' più duro rispetto alla tela, perché la tela è vista come è impregnata, è un tessuto tipo un vestito e ci mettono una protezione sopra, anche se è molto dura. Però il Zodiac ti posso dire, per tagliarlo, perché mi ho preso delle vaniglie, cose del genere, c'era una forbice di quelle da come si chiama, la tappezzere, quelle dure che tagliano bene, ma sai quanto era duro quel materiale, salvato, era una cosa allucinante. Ci credo. E quindi se c'hai, scusa, mi sai ciò che c'hai uno più piccolino così, e non si come tende, vabbè. Un coso, un floating, non so se lo riconosci. Personalmente no, però ne ho sentito parlare, ma è come usi quelli con la piattaforma? Me l'hanno portato 2 anni fa con quattro cavalli, ma l'ho portato anche a quattro cavalli dalla Johnson, era un paio di anni di vita, nuovo, si può dire che non ha mai lavorato, perché era un ausiliario di una barcavela, un tenente di una barcavela, è nuovissimo. L'ho portato giù pure, e mi sono rotto le scatole, ho detto, ma tanto ci sono le barche di lì, abbiamo tutto, detto, neanche per stare la scuola, ma poi ero preoccupato che passasse, siccome ne hanno rubato uno già di canotto di lì, ho detto, ma ripassa qualcuno e te lo ruba, se vuoi stare sempre attento alle cose, che ci passi qualcuno, che ti facciano dispersione, sta diventando un bel trafficata di antilofia, perché quest'estate hanno fatto un po' di furti, vengono quelli, le greffe, se ne vanno verso la torretta, ti prendono le sedie, i tavolini, gli asciugamani, e allora domani non la sopravvenuta, per cui ho detto, se trovano canuti domani per lo scherzo di buttarci l'acqua o farci la pescatina, te lo prendo, infatti ho detto, facciamo perdere. Poi, ma poi gli spiaggia, per me era molto meglio la barca d'alluminio. La tira, non c'è la manutenzione, gli butto la secchietta d'acqua, tutto va bene. Se, comunque Mario, metti a posto il gommone che ha adesso, che finisci con quello. Ehi, la pagata. Ma perché stiamo cercando proprio per vedere cosa si poteva fare. Perché appena l'ho buttato così mi dispiaceva. All'inizio, di vero la volevo salire, ho detto ci prendiamo un rudere, una barchetta di quelle leggere, la teniamo quando me ne salgo la barca. E questa barca l'ho presa, sarà 10 anni che ce l'ho, un gubbi di quelle aperte, tipo quella che sarebbe tu, dai, un tipo catamarano è fatta, che all'epoca era una barca discreta, dai. Però ci sono dei lavori da fare, avevamo comprato tutto la ferramenta, il legno per fare i gavoni, perché c'erano i lavori rovinati, c'è già tutto pronto. Infatti mi sembrava qualcuno, se c'era 200 euro gliela diamo. Perché qua non abbiamo pagato noi, l'abbiamo pagato a mente, l'abbiamo presa 200 euro. Ci ha fatto una campagna vicino a Badalonga e l'abbiamo salita. C'è stato l'entusiasmo iniziale, e poi c'erano 10 anni buttata dentro l'officina. E ti fai spazio più che altro, ma con una 200 euro oggi non ho più niente, va benissimo, quindi facciamo la voce lì, già si trova, e quanto c'è di lavoro da fare, ma vabbè. Ma se uno si mette non ci vuole niente, più che altro gli dà una verniciatina, perché la rossa fratello è bianco, gli aveva dato questa specie di rosso brutto, vuole fatto un po' meglio, qui ci sono già tutti i cosi con tutte le cerniere già piazzate, vogliono soltanto succare i punti dove ci sono stati, perché lo specchio di poppa lì stavano facendo, hanno fatto delle porcherie di modifiche, e allora ho fatto un altro specchio di poppa in legno grosso da appoggiarci sopra e li metti i bulloni passati, di uno specchio di poppa di un gommone, bello grosso, quel compensato grosso, glielo bulloni sopra, diciamo, 200 euro non pretendete di avere una barca nuova, ma se uno si vuole appentare già si può prendere. Guarda, lo dico a un ragazzo che conosco, si chiama Paolo, e lui mi tiene giù alla gentiera, quindi lì ne faccio abbastanza di barche, e quindi lui non ci vuole spendere molto sulle barche, poi lo faccio un dino di quelle che se ne fa lui, lo dico, me ne verrà bene adesso. E a quando vuoi non c'è problema, così ce la troviamo a mezzo ai piedi, perché tanto è buttata di lì, ora asciutto me, non ha mai preso acqua con la barca, almeno quando ce l'ho io, è sopra un ponte a quattro colonne, l'ho messa, e sopra la barca ci ho messo il canotto, quello sarà 2,10 m, 2,20 m, quello floating rosso che c'ho. Alla fine c'è tante di quelle barche e poi alla fine non la stai usando. E questa è cosa in società, abbiamo fatto una società a un terzo e un pezzo, che da ridere, se andate a vederla, però, più una perdita di tempo per prenderla, portarla su, se ci penso. 10 anni fa, ma 10 anni fa, no vabbè, forse no, c'erano già gli euro, l'euro era 2001, stiamo parlando 2002, 7 anni fa abbiamo preso. Però vedi, da un lato può essere comodo perché se vi prendo la tua barca, o da lì avete messo la sua per fare manutenzione, però avere smutta sopra, ce la mi faccio a posto. Però non siamo con le zicchio, proprio per tenere la linea al porto, ovviamente la teniamo di lì, quando poi ci serve, chi se usciamo insieme non ci sono problemi perché se andiamo a prendere i pulpi, a totalare, cose così, però di meno è sempre meglio non tenere nelle barche, perché quando sono le mare grosse, cose così, infatti ci buttiamo una riga di vasca da bagno, noi le chiamiamo, ce la butti di lì e te la tiri. L'avevamo pagata a 210 euro per l'esattezza, e ci avevamo portato su, era una campagna, un amico me l'aveva detto, siamo andati alla Bombigliata, è rimasta un paio di mesi buttata sopra il carrello mio a Villa Fiorita, perché è abbastanza pesante, come macchina, in realtà dovrebbe anche tenere un po' di male perché è pesante, una Gubbi non è nemmeno di quelle banche da 13, da. Quanto è il numero Roberto che non sto scrivendo? La Roberto è 4,50 o 4,60, è abbastanza larga come barca, mi dico le barche che si usano da diporto, le avevi viste quelle squadrate che rimangono squadrate davanti. Sì, sì, già ho capito, ma non ti lo dico, ma che motore c'ha, no? No, motore no. No, lasciamo perdere, 4 cavalli ma non tengo, non c'è, ma per guardare 4 cavalli non basta, ci vorranno almeno 15 cavalli per farla camminare qua, basta. Ma che fa per conducente, non c'è neanche il motore, no, lui il motore ce l'ha, per le basse che c'è come la trova l'argentino, specialmente quando si fa permettere male, ti attaccano a una specie di Tilford, le portano su fino a che non batte l'onda, quindi sai scendere, le barche se le mangiano. Sì, no, ma questo è lo scafo, la canale è abbastanza buona, c'è un segnettino, una blasone sotto, ma già si sistema. Poi ci sono dei tagli sopra dove c'è il calpestino, ma lì se ti metti si fa tutto. Poi lo specchio di poppa, la porta più brutta è lo specchio di poppa perché l'hanno resinato male, lì bisogna rascarne tutto e metterci. Ho già preparato nuovo, l'ho preparato da uno specchio di poppa di un gommone in coso, in legno grosso, compensato marino grosso, li metti quei bulloni passanti, con la piastra dietro e se andate è meglio di più. Naturalmente non sarà il migliore dell'estetica, ma la robustezza ce l'hai molto meglio dell'originale. Ma poi non mi costruiva bene, cioè usava dei criteri buoni di costruzione. Sì, no, come barca, quella barca, se tu la comprano adesso, non penso la paghi meno di 8.000 euro, una barca, parliamo nuova, non così, non in quelle condizioni, non meno di 8.000 euro. Confronto per dire alla Saver, a quelle cose a son Canadia, a quelle barche leggere, quelle fatte in coso, in vetroresina di adesso, che le fanno grandi produzioni, però se consideri lo spesso della vetroresina, è molto inferiore a quelle che usavano per dire la Gobbi, la Cranchi, eccetera, eccetera, che prima usavano materiali molto più robusti, là. Sì, perché quando adesso li stiamo facendo leggere, potremmo utilizzare con motori che diciamo di bassa potenza e poter camminare, ma se la gira mano ti conviene quella lì, non spendere neanche soldi a resinare e a farla da capo. Vedo, se vi metti, se è tutto il lavoro di Mario, vabbè, lui ha la barca sua, se viene fatta bene con certi criteri, una barca d'epoca, sono abbastanza apprezzate. C'era il cognato di mio fratello, lui c'ha la barca quella, ce n'era una di quelle, adesso l'ha messa in secca. Sono barche il progetto finlandese o svedese, adesso mi ricordo. La barca mia era... Porta, mi ricordo se tu ci sei passato. Lì vicino... alla capitaneria di porto andando al bar, hai visto c'è qualcosa per salire nella barca, ce n'è una che è precedente che è la mia, però è tutta bombardata là, e la stanno vendendo 2700 euro. Una cosa l'ho vista, Mario, già la conosco bene. Già l'ho vista, ma io ce l'ho vicino lì da barca mia, mi ha visto che c'è il colore pescatore, quello ci vuole stai dicendo tu, io ce l'ho andando dritto di lì, la barca mia, in quel pontile nuovo che hanno allungato. Accappa, gappa. Sì, qualche giorno mi invita a fare un giro. Ma qualche giorno mi lascio la fattore, l'ha usata tre volte, l'ho usata ad agosto, a fine settembre e ottobre, forse novembre, prima di novembre la barca mia, e da quando l'ho messa a giugno. Ma tu è perché sei un cane morto. Ma Giuseppe di nuda, Mario, ma anche tu, non sapere quante cose avrei voluto fare, non riesco a fare un cavolo. mi mette come in questi giorni, mi sono come senza casa, non è una cosa avvolgibile. L'anno scorso la cosa di avvolgibile, non ho tempo di fare niente. Vabbè, certo che talvolta, ma quello che fai il posto in barca è tutto trovato da lì giù. E vabbè dai, salvato, non entriamo su, non tocchiamo quel tasto, dai. Vabbè dai, c'è un argomento, dai. Allora quello che a te che va a Lugomone, cosa combini? Ma è che sono uso e me ne formo lì, ma la barca quando è in porto, quello che mi dava fastidio a me, dicevo, perché mi sto pagando il posto in barca, sto pagando rimessi e poi devi fare l'invernaggio, gli altri risultati, ma è tutto per usarla poco, è quello che mi dava fastidio. Prima invece, però c'avevo la compagnia, perché è anche la via che bisogna avere la compagnia, quando avevo la compagnia, io almeno il sabato uscivo, solo se a farmi la fame, non voglio riuscire a fare due calamari, a fare due frutti, ma non l'avevo fatto prima, la prendevo. Adesso è un mesi che la stavo più usando, vabbè. Adesso tu sei peggio di me, magari tu c'hai meno ubi dei miei, cazzo, perché c'ho anche altri ubi, purtroppo è quello lì. Oh, vabbè, meglio avere dei ubi, se non è magari è brutto. Oh, io vado un attimo a bermi un bicchiere d'acqua, che c'è un po' di sete, continuate voi. Mario, ci sei? Certo che ci sono, io sono sempre presente. Allora se tu te l'avessi messo a posto, qualche calamaro, lo sai che ci sono, è più dei calamari quest'anno. Vabbè, ma la barca mia mi piace perché è bella, è spaziosa, non è grande, me la metto sul carrello tranquillamente e vado dappertutto. E niente, e poi me la voglio fare come dico io perché la vecchiaia si sta avvicinando e poi mi rimarrà l'ubi della pesca. Se Dio vuole che mi manda in pensione, farò il pescatore per ubi. Un attimino, perché c'è un abbattimento, non è che ci stia parlando qualche nuovo vicino. Ascolta, tu mi fai la porta appena tu, e poi che la si usa. Pagappa, no, per quello non c'è problema, dai, io ho tanta pazienza e va bene così, dai. Solamente che molte volte si fanno le cose e poi ne hai quasi sempre gli spiacere e malumori. Adesso vediamo come si mette quest'anno. Sì, quello è vero, bisogna prima vedere come si mette, poi chiaramente sei più tranquillo. Ok, chi è stato se lo metto? Roberto, spero che la facciano colazione io, anzi no, merenda sta facendo ormai. Lascialo fare, che gioco, è lui, se no fa peggio. Sì, quindi adesso vediamo un po' com'è, sì, volevo piazzarmi più bene sui traino io, non sono riuscito ancora a avere il tempo, a avere se c'è disponibile, so che bisogna ordinarlo. Beh, per quale macchina? Io l'ho piatto sul bambino, Mario, che mi è più comodo. Entrato? Sì. Sul dopo quello lì, sì. Il carrello ce l'hai? È tutto completo questo cappello, c'è gommone, motore, carrello, c'è tutto. Allora hai fatto la palla, là. Diciamo che, insomma, mi sono fatto consigliare, ho chiesto consigli in giro, soprattutto è stato donato il consiglio di Roberto, ecco, io lo conosco, è ultimo, effettivamente quello che l'ho visto aveva ragione, è un bel gommone. Sai chi c'è una bella barca, Roberto, fratello Danilo, è proprio bella quella barca, io ho visto la navigazione, è veramente bella. Non mi sono ancora seduto io con la barca, l'ho vista soltanto di lì in porto, ci siamo incrociati camminando, però non mi sono ancora seduto. Mi l'hai trovata? Diciamo che c'era proprio il motore, già te l'ho detto, adesso sembra che sia tutto ritornato a posto, perché c'aveva la centralina, andava in tita al minimo, dice gli dava dei problemi col motore, però l'elica deve rimettere l'elica che c'era, perché dice non va bene. Ma l'hanno venduta con due elica allora? No, mi ha dato l'elica normale, però Murruzzi, siccome lui è molto amico di Murruzzi, gli ha detto prova questa e vedi un po' se ti va meglio. Perché lui ha detto non ti preoccupare della velocità, perché tanto se fai 30 nodi cosa cavolo te ne frega, puoi cambiare anche un paio di nodi di meno, però il problema è che chi riesce a tenere in spinta la barca. provare il contempo, e lui è cosa professa, ha comprato un motore nuovo, adesso lo vede un pochettino perché era un po' deluso di quel motore lì. E poi magari ti metterò di canacciaio come me l'ho messa io. Sì, il canacciaio è importante. Ma scusa, adesso sono appena a posto, se mi guardate un russo, insomma, una persona, è un meccanico, un signor meccanico, insomma, perché bisogna essere cambiato, ma aspettate, mi avrei fatto una stagione, lei sa quando ha messo a fare una barca, in che mese? Avevo fatto la messa, lui non ha fatto nulla, si può dire che l'ha usata poco e niente con la barca, perché non riusciva a trovare il posto. No, sai, dico, la metà agosto, siamo a gennaio, è usata una stagione, e almeno così vedi come va, in base a come anche naviga, l'acquisto del motore che devi fare, lo fa in base all'esperienza che ti hai maturato. Appena niente messo in marcia, adesso mi ha risolto questo problema del minimo, ma quindi che io non l'avrei cambiato ancora. Vabbè, ma dice il futuro, magari ti sta pensando di prendere. Vabbè, poi dai le bussini, molto volubile, poi magari si tiene quello lì, perché è nuovo il motore, infatti una volta che è tutto quanto a posto, lui un po' ne ha realizzato tutti quei problemi che le ha all'inizio, ti ricordi, prima che non pisciava l'acqua, poi che le marce gli davano problemi, poi c'era l'acqua l'emulsione nel piede, un sacco di cose che alla fine ha detto basta, mi sono stufato, l'ho arrivato a posto, me lo vendo e me ne compro uno nuovo. Lui è propenso a prendere 150 cavalli. Vabbè, 150 sono sempre una potenza, una signora potenza. Senz'altro la barca va ancora meglio. Però io avrei provato una stagione, almeno una stagione. E poi mi ha fatto una stagione, avrei deciso se mettere 150, se mettere 135, perché se il 115 già se va benissimo, è al limite. Se bisogna se mettere un 150, che pesa di più, costa di più e ti ha anche per non sfruttarlo. Io l'ho aspettato, quindi vabbè, me ne mi vede. E quindi l'uso perché la barca lui ha fatto male, doveva metterla subito in acqua. Mentre ieri non la metto là, perché doveva provarla subito. Anche l'ho detto dall'inizio, ecco, le barche si provano in acqua, non in vetrina, cacchio. Così ti vedi tutti i difetti, i pregi, dici sì, mi piace, guarda che la bocca tua, lui sta comprando un'altra barca, e anche se sono ottime le barche, quelle di Genoa, quelle di Valletto, la sta prendendo tipo la mia, pilotina però sportiva. Detto, lascia stare che non ti serve a niente altra una barca del genere, che tu vai a pescare, hai necessità di un posto chiuso, visibile, in manovra, eccetera, eccetera. Alla fine quando ha visto chi sta a quella che ho detto io, ha detto no, ma la prendo così, troppo bella. Poi informandosi c'era la Saber simile, abbastanza simile come barca, e l'ha presa quella. Se lui sarebbe stata una di quelle, tipo la mia, quelle sportive, così. Lei si è andata bene, lo so, perché lui fa delle belle barche, fa. Sì, ma questo barca l'ha risolta adesso, tranquillo, No, ma definitivo anche se l'hai detto del tipo sta cercando di tutto, però siccome dopo tutti i grandi redditi c'è cioè già sta pagando di quelli passeggeri, come si chiama, di passaggio, di transito, anche se adesso mi sembra che sta chiedendo 10 euro al primo anno, una cosa del genere, no aspetta, adesso non ti vorrei delle fesserie, comunque mi sembra forse 300 euro al mese o 200-300 euro al mese stava a pagare, adesso non mi ricordo, perché non puoi andare dopo adesso visto che siamo d'inverno. Faccio di tutto, di trovato il posto, siccome è diventato molto amico di quel Vincenzo, sono sempre un pari, dai, vediamo un pochettino, si sposta un po' le barche, cerca un po' di stringere qualcosa e mettercela in mezzo. Allora, senti, non sono pochi, non sono pochi, ma anche se non si trovano questi posti più, ormai stai diventando veramente. Mi è compasso che questo basso che fate a questo punto, fanno bene giù in costa, e diventano proprietari del posto barca, va bene. Io questo comprare è sempre un rischio, a meno che non vedo un bel dinà, perché poi decido, questo pontile da oggi togliamolo che disturba, come probabilmente toglieranno del pontile dove ci sono io, perché lì c'è la capitaneria, i metri grossi hanno necessità di non sono 25 metri di manovra per fare l'ingresso, e ce ne sono 20, ci sono 5 metri di differenza, per cui teoricamente adesso stanno lasciando correre, perché sanno che ci sono un sacco di riportisti e cose del genere, però è per dire, dove c'erano prima io i lavori, ti ricordi? E chi se lo immaginava che ne toglievano un pontino per fare i lavori? Io ho detto c'è il posto sicuro invece lì. Ma come mi hanno lavato? Solo mi sei trovato come una ventina di quelli che erano lì in secca. Peccato, era troppo bello, ma non lo visto una gru e se la trova smontata adesso, senza patologia, chissà che 6 danni che sta sopportando. Ma. Ok, veterinario. E che era? Ti ha messo saldando un PL? In giorno il caporanno ti sta saldando un PL. Roberto ci sta facendo lo spinotto e io già dopo. Ecco. Tu chiacchieri con noi, mi hai fatto parchetto pure. Sempre qua va. Parchetto, mi ha riconosciuto subito Mario. Beh, alla prima Mario è ormai omicidiale. Quale segnale ormai? Quando mai uno non parla non lo riconosci. Sì che ti riconosco, ma io appena avuto il segnale tuo. Comunque in questo momento il più forte, la più forte transizione ricevuta è Mario Manze, 9:40 e tu 9:35. Vabbè, ma considera che io c'ho sempre quel bastoncino. A proposito, Robert, ti volevo dire, sono salito a Usini ieri. Ma ti sono detto? E sono salito a Usini ieri. E allora come ha fatto Nino? Positivo. E me cosa ti ha detto? Mi ha dato l'antenna. Cosa manca? La bobina plena alluminio? Quella, la molla, no, la bobina. Vabbè, chiamiamo, è sempre una bobina, quella chiamate molla, non si chiama bobina. Non la danno, dice c'è una persona che la lava. Sì, gliela deve portare, capito, gliela deve portare. Poi mi ha fatto un bel regalo, mi ha dato un alimentatore bello, con quello sto uscendo adesso. L'alimentatore è importante, prima l'antenna e poi tutto il resto. No, sono contento, c'è lei grande che ti si... Amico, sabato, lo sai, c'hai ragione tu, ho guardato uno di quei 5 lettori che mi ha dato tutto tempo fa. Cioè, ma è conto che ne fa 2 di quelle quadre cubiche. Fa 2 restanti, ma non ci sono disegnate, vero? No, vuoi entrare nel sito, adesso qua non ce l'ho internet, ma lo vedi quando scendo giù in officina me lo guardo. C'era una marea di queste antenne cubiche, quella cubica e altri tipi di antenne per la 27. Secondo quanto è, se non costa una cifra esagerata, anche se quella che sto dicendo io è facilissima da fare. L'unica cosa, lo sai cos'è? Infatti gli vorrei chiedere qualche consiglio a Marco, il fatto della ci bisogna utilizzare 2 cavi di diversa impedenza per arrivare ai 50 ohm, perché se no l'impedenza è troppo alta, fatta così senza niente, e quindi dove fai l'accordo, diciamo, dove attacchi l'alimentazione, il cavo, diciamo, di carta, devi mettere una certa posizione. In un progetto che c'è io ti dice metterla così, nell'altro ci sono dei calcoli proprio di altezze particolari, e così la distanza degli elementi ti dice quanto la devi fare, c'è una formula. Però nell'altro progetto che c'è tutte queste cose non ci sono, dice metterla così, però poi vai e c'è la stazionale a 4. Quello è. Nel sito non si può entrare, ci sono entrato ieri e c'è scritto in costruzione, quindi penso che lo stiano rimodernando. Ma come si può chiamare, chiedere cosa avere, e ci fate mandare anche le caratteristiche di queste cubiche, perché secondo Fosè alla fine aveva già pronta, piatti via. Io sito in aggiornamento, c'è scritto in costruzione, però era successo anche così con la Sigma, gli hanno dato l'indirizzo di posta elettronica, ma mi hanno dato tutto, purtroppo cazzo, quando ho installato il computer perché se ne era andato in siti, c'erano tutte le antenne della Sigma con tutti i prezzi, perché il prezzo non te lo danno, ma anche non glielo chiedi specifico, dico guarda al nostro distributore, mi hanno dato l'email dove c'erano tutte le antenne con tutti i prezzi e con tutti, vedi, cliccavi sulla mappa 1, schiacci e ti dici arrivano le lunghezze, i guadagni eccetera eccetera. Se no ne faccia così anche la Echo, così vediamo un pochettino, anche se la Echo rispetto alla Sigma è un po' più cara come antenna. Guarda sul sito della piccata tu, perché anche loro facevano le cubiche. No, quello sono entrato, ho salvato, però non ce ne sono, perché infatti questi progetti li ho presi proprio da quel sito di KV. Ma non è italiana, di KV non è americana, mi pare, così. No, è italiana, è in altiplano che ci roba. Io quando ho puntato l'antenna, ho parlato direttamente con l'ingegnere che ha avuto problemi, non riusciva a andare in risonanza, ho parlato con lui, mi ha dato alcuni consigli, un parco l'hanno risolto, poi mi sono attrescato, l'ho smontato, ho preso tra l'altro. Ma così anche che fate per qualcosa lì, mi fate? E sono 2 minuti sto prendendo. Ho detto, fermano 2 minuti e sto riprendendo. Sì, sì, sì. Se parlate in 2, Mario e... diceva cosa stava partendo, di prima. Gappa, a buttarsi tutto nel parchetto, stai uscendo tutto a trondi, allora, cosa passo mi senti, sabato? Due zappelletto sto usando, perché, vabbè. No, qua sta arrivando. va bene, sei quasi 9:20 da me, non c'è problema. E a me si è trovato tra me e Mario, chi ti arriva più forte? Un tantino Mario arriva 9, quasi 9:25, un pochino da 30, e poi arriva a 9:20. Infatti è normale, perché poco fa male, è stato meravigliare, perché se lui è più vicino a me deve arrivare il doppio, più forte di me. Mi ha detto, se ho sentito un suono, è già strano, eppure Mario c'è una bomba. Sai cos'è? Io sono molto aperto con Mario, però anche tu non scherzi, se io salgo sul terrazzo e metti il che non vengo alla sua casa, non me. Ora, dimmi una cosa, Salvato, il tuo accordatore cos'è? L'M2000 della Magnum? Sì, aspetta, te lo metto, sì, è il 2000, sì. Quello che ha 4 posizioni di commutatore antenna, quello lì è? No, 3 in A1 e 3 in B. E poi ci sono le cose per le frequenze, cioè ti fa, cioè già porta 3 frequenze, una specie di commutatore. Sì, 11, 17, 23, 45, 38. Te l'ho visto, quando l'ho visto la testa, te l'ho visto di suscita, ma oggi per me sta guardando un video circuito elettronico, c'è il problema di dice semplicissimo come costruzione, poi dice è una bomba, l'hanno guardato tantissimo, dice fatto veramente bene, di qualità, un ottimo prodotto. Non me l'avete preso, se sono fatto qua. Ah, io l'ho preso, l'ho rifatto, purtroppo è fallita, era un'azienda che di su, e questo è usato, questo l'ho preso usato io. Quando ho preso il... il 140, allora il 140 non c'è un accordatore, l'ho preso per accordatore a parte, tanto non so cosa usare, io neanche questo il 440 se usa un accordatore. No, è bello, ho fatto bene, io mi sto allucinando da questo amico radioamatore, questo adesso me lo dà a me, se lo vedete lo dà a me, non lo dà a nessun altro, lui c'ha l'MT3000, non so se lo conosci, che è quello grosso, da, pare da 3 kW, che c'ha commutatore antenna, carico fissizio, filtro interno per i disturbi, va tutto, non rimane nulla, pesa 11 kg, una bestia, però ho detto, no, se no mi vedi sulla stazione, eccetera, eccetera. Guardi, gli ho posto, sicuramente me lo regala adesso, e quando me lo darà? Allora ero un po' indeciso, volevo fare una cosa, aspetta, perché mi ha regalato il microfono SBM, mi ha regalato quel rotore che a proposito, non so se te l'hai sistemato, quello che ti ho dato a te, poi che c'era a fare quel lavoro ai cuscinetti, poi mi ha dato un sacco di roba, mi ha regalato questo uomo in gamba, perché viene in officina, gli faccio qualche lavorettino, così così, e non, normalmente non gli chiedo mai niente. Ma anche questo c'è anche il tuo fittizio. No, come la pezzalina, sono fatti, la mano faceva anche degli amplificatori, dicevo su questo CQ ci sono tutti questi apparati, ma amplificatori di bestiolina da 1000 watt, quindi c'è delle cose allucinanti. Sì, ma guarda, sono delle antenne, bisogna, delle antenne. E che ascolta, che frequenza fanno queste cubiche? Da quanto partono, quanto arrivano? Ciò che frequenza le suonano, in poche parole. Aspetta, c'è stato qualcuno che voleva entrare. Allora chi vuole entrare? Voleva entrare, ho sentito il bip. Stavo dicendo, no, questa è la 27, non è? Puoi andare anche sui 10 metri, perché riesce ad arrivare un pochettino, però la larga termana non è troppo elevata, ci dovresti lavorare a cosattore. Però per altre frequenze devi... Quelle altre le rendono bene le cubiche. Sulle V e sulle U, perché non sono molto ingombranti, per cui te ne puoi mettere 5 metri affiancate e ci hanno guadagni di 15-16 di lire, c'è cose allucinanti. No, pensavo che magari si poteva usare anche come l'avanzo, no? Come l'avanzo, ma uso un po' da 27 fino a 88. Non lo so, io non l'ho mai provato. Vediamo, Mario, dicici qualcosa. Che cosa voleva dirti? Allora, c'è qualcuno che vuole entrare, chi è avanti? Yeah. mangiato, per poter evitare la carne, Mario. Sì, però bene. Sì, sì, anche io ho mangiato legge, ho fatto al forno, gambe, io già detto che avere anche cose leggere, no mamma mia. Già abbiamo detto, c'è anche mio cognato, già, c'è la mia madre, ha detto, ehi, che meno male, con quello già abbiamo finito. Sì, c'è sempre così, questo, tutti i domani, poi c'è l'epifania e bisogna stesso festeggiare. Ti accadiamo più caute adesso, mamma mia, bru, finito, dai, che poi io sono goloso, mi poi quando vuoi stamagnare, che c'è una cosa che mi piace, non mi tira indietro. Sono a fare un ragazzino che ho visto giocare l'altro giorno, vabbè, poi se lui riesce a portarlo, sta a portarlo, è favoloso, lui ha 14 anni, voglio vederlo. Fallo venire con gli allievi, può giocare, cosa gioca, attaccante, difensore? Centro giovanile della Roma, no? Sono venuti, io sono andato da vederlo, e lui mi ha detto, ci vuole andare, non mi frega niente, e tu dice, beh, vuoi vedere la Sassi, vuoi c'è gli amici, non mi interessa niente. Ma guarda, mi ha meravigliato, tu non è con questo ragazzino. Sono andato in giro che Mario non c'ha l'assiduità per venire allenarsi e fare, guarda, non c'è problema. Ma gioca con qualcuno? Chissà che io giocavo l'anno scorso, pensavo sta giocando con nessuno, proprio perché mi piacesse un po', come si chiama, quel canisciolti, no? Ma dobbiamo fare forse un'amichevole, una partitella al 2, domani, sì, domani sera forse, la facciamo al bullying al chiuso, e casomai se non ti avvicino te lo faccio vedere. Di Mario, sono andato un po' tardi, sono andato volentieri. Un po' tardi, la facciamo tra mezza a 4. Tra mezza, così presto? Che poi non devo impegnarmi tutta la serata, ma facciamo il cellulare intanto al coperto e sì, e poi al buio la trovare perché tu mi vado a casa, non si può sviluppare i soli tanti, sì, magari la facciamo e ti avvicini, te lo faccio vedere. Sta giocando, anche tu sta giocando così, ci provo, vabbè, speriamo con una, non riesco neanche a muovermi. Vabbè, se c'è la Puglia, no, la Puglia non sono mai giocato, l'ho solo vista la gente giocare, però nel periodo estivo era un caso da morire, adesso si fa bene. Adesso si fa bene, e si fa bene, ma è come il ferroviario, che nel fatto si crepa al caldo, l'inverno si crepa al freddo, ma tu al ferroviario ci sei mai stato in quella struttura? Sì, i ragazzi ne ci hanno giocato, quindi, non io personalmente, già lo so. C'è un freddo, ma freddo, un inverno, che da ghiacciarsi. Già lo so, purtroppo così, sono quelle, là sono tre strutture, cosa so? In quelle strutture, quelle specie di tamboni, appunto, come quello che c'aveva quello a Bancaglia, sì, quel bambino, non sai, su un freddo, cioè all'inverno, doveva bagacciarsi, stava meglio fuori. Vabbè, però a me non ti cagireva il nato, è così, stavolta, già lo so, purtroppo sono quelle nylon, è come se ti metti una fodera di nylon in testa, però a me non ti caderà qua sopra, poi una volta che ti muovi, certo se rimani fermo il freddo ti entra nelle ossa perché c'è un po' di umido. Quello è quello. Ma prima ti dico che tu faccio adesso l'ho fissato il campo, quindi prima mi lancio per Mario che entra subito. Avanti Mario. C'è anche Falchetto lì. Ma ti cacciava di qualche scusa, non mi ricordavo, faccio la tirata là. Questo. Ma che mi senti? Mi senti Mario? Vabbè. Ma chi è che lo sta uscendo? Mario o qualche? Roberto. Sì, ma è tu che lo stai uscendo qualche? No, non lo, forse era Mario che lo stavo uscendo, Che tu sei? No, non sono io. Ma Mario mi senti? No. Non è Mario, non è Mario, perché tu lo passi. E chi è? Qua è un segnalone, è quasi quanto Falchetto, 9.35. Mario, ma tu sei? Mario, ma non stai uscendo, Mario. Non stai uscendo, Mario, non stai uscendo. Mario, se sei tu, dai due cose importanti. Mario, non stai uscendo nel radio, controllati i BTT che sei in ordine, oppure il connettore dietro del 60, che anche me l'ha fatto qualche volta, e quello che la farà. Se no, la parte di tutto, mi dice dove lo butto e poi posso prenderlo io. Dimmi. Sta uscendo adesso il radio? Sì, ma guarda, lo sai meglio non sta uscendo. Capito, no, perché era il BL che toccava i fili, capito, ma del microfono, forse era quello, Adesso va tutto bene. Avanti, Salvatore. Un attimo che fa messaggio per sapere il campo di domani, quindi. Aspettiamo un attimo di bianco, che c'è qualcuno che io sento sotto. Attenzione, canale 5 che vuole entrare, avanti. Guarda, già mi sta dentro la rubbia. Cani? È doppio tu. Non lo so. Comunque adesso qua mi controllo. Bene, sto scendendo proprio. Ma di nuovo? Ma il segnale c'è, però fa male, voglio sentire se stai strappando di radio. Guarda, se sto strappando o meno. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5. No, va benissimo. Ma questo è sempre nel 300. Eia. Ma tu l'avevi anche chiamato il microfono, sbaglio. Non ho capito. Aspetta, non ho capito se avete parlato in due, riprovo a far che. Ho detto, cosa mi hai detto? C'è anche un altro microfono oltre l'M300. C'è un risultato. No, negativo, solo questo. Aspetta un attimo, vediamo se Mario è entrato. Mario, sì. Io non stai uscendo di radio. Controllati tutto. Allora ti sono fatto. Io non sto uscendo. Sicuramente qualche cosa. Hai chiamato il microfono, Mario? Pronto? Sì, un bip sento, però, quando mollo io. Io l'ho sentito, non capisco chi sia. Ti voglio dire, ma faccio 5 ore ce l'hai salvato. Scusi, dottor, sì, ce l'ho sempre. Prova a metterlo se ce l'ha portata di mano. Voglio che sono dato, non lo sento col microfono. Vabbè, lo faccio qui, perché sono in un'altra camera per quei motivi che ci stavamo parlando l'altro giorno. Subito facendo il giù, e sono, vabbè, lo faccio qui. No, non ti preoccupare, pensavo ci avessi della portata di mano. E vediamo un pochettino, un attimo di bianco, sul canale 5 chi vuole entrare. Hai sentito il bip, Sì, sì, l'ho sentito, però lo sento solo il bip e non sento nient'altro. Vabbè, se vuoi entrare, entra, se no, fai quello che vuoi. Vai, fate. Confermato, anch'io ho sentito il bip, però non vuole entrare, se la, vabbè. Faccia come vuole, dai, riprendi, vabbè. Ciao, vabbè, ho giocato il gioco stufa pellet quando lo prove. Ho paura che a provarlo, vabbè. Non so, no, ma quando non c'è nessuno, tipo giornata tipo oggi, che tutto è sudato. Perché non vuoi sentire? Ah, così se è roba veloce, se no tutti dimmi, no. Aspetta un secondo, Vediamo un pochettino cosa sa fare Salvatore. Vedi, Falchetto, tu ce l'hai, vabbè, già c'è lo switcher col baracchino. Falchetto. Stavo avvitando il BL del microfono, dimmi Roberto. Ma detto, ce l'ha lo switcher per prendere i segnali col baracchino che c'hai tu? E poi certo che ce l'ha. Ma non mi sa il segnale Salvatore, quanto ti arriva Salvatore adesso? Passaggio. Ah vabbè, adesso stanno andando a attaccare una cosa. Per vedere come arriva. Mario, vediamo un po' tu se hai ripreso, avanti. Adesso sei uscito basso di radio, non ho capito cosa c'è con Milen, dimmi. Ma cosa c'è per 40 o 4,40? Sì, non ho capito. Non hai toccato il tasto che l'ha messo in FM o in CV doppia, controlla quella lì, Mario. Non sta uscendo niente di radio. Ma adesso lo faccio adesso, ci fa sentire una cosa Salvatore, vediamo quanto arriva. Grappa. Sempre pulita la radio, Robè. Ehi, quant'è che ti arrivo io di Falchè a Retro Park? Aspetta, accendo la lampadina, si vede un neanche, non aspetta. Ehi, a passaggio, Robè. A picchi di 30. Hola, attenzione, mi sente, Robè? Sì che ti sento. Aspetta però che non riesco a capire perché mi stanno dando il segnale sbagliato. Quanto sono? Sui 9.20, sì. Aspetta un attimo. Vabbè, ci sei? Sì. Quant'è adesso? È salito a 9.25, dai. Ok, e adesso quant'è, vabbè? È un po' di più, dai, sei vicino a 9.30. Vabbè, deve scaldare. Aspetta un secondo. Sì, aspettiamo. Però no, facciamo un segnale allucinante. Vabbè, adesso com'è? È 9.30. Chi sei tu, Mario? Mario, se sei tu non stai uscendo. Chi è che ha parlato? Io sono, vabbè, mi senti, quant'è? Adesso è 9.30. Sei al massimo, puoi salire ancora? Posso salire, ma non vorrei fare una fastidio, hai capito? Ma quanto è entrato adesso? Attenzione, adesso mi senti, Roberto? 1, 2, 3, prova. Aspetta, 1, 2, 3, prova. A Puglia. Quant'è? Come? Sì, è aumentato di brutto Salvatore. Sabato. rapido Santiago 8-9 quasi, eh. Sì, un attimo, eh. Carocci. Su questo 30, quattro, qua bisogna fare il fatto che 9-35. Sono tanto qua quel giocattolo, blu, mi fa sul mondo. Non c'è. Ma lo sta facendo con la baracchino. Si vede, sono. E io vengo già all'altro, beh, ma bussa a mia moglie, ma è stato. Non ci poteva più guardare. Il baracchino, ci vuole un baracchino di quelli ultra sensibili, cioè ultra efficienti, perché se c'è appena di spuglia te le moltiplica, non lo trovare col brutto, cioè col brutto la trovo. Sì, no, non mi fido a attaccarlo qua, non voglio far danno. Quello lo sai con quello si può provare, con l'Inter che c'ho io, perché c'è una pulizia di modulazione allucinante, è un baracchino di nuova generazione, quello tira fuori 4 watt puliti, non ne avrei più chiesto, pure non è stato mai toccato, né. Così vediamo un giorno, quando lo scendiamo giù vediamo cosa fare. Avanti Mario. Io ho attaccato l'albero là, l'alimentatore a quello là, se ne sta andando. Mi si abbassa anche molto la luce dello switcher quando vado a parlare. Sì. Aspettate un attimino, Mario, ti sei portato appresso un disturbo. Però c'è qualcuno che sta cantando, aspetta un attimino, avanti chi è che canta? Aspetta, Salvato. Oh, vabbè, sì che lo sento. E questo è cos'è? Ma è tutto? Sì, l'ho provato, com'è? La radio è un po' rasina comunque rispetto a quello che stavo usando prima. Vabbè, ma non fai spegnere al massimo come prima, poco fa è più forte. Lo so, non posso, aspetta, così a metà, quant'è? 30. Io quando ti arrivo, va bene. 9.35. Ah, va bene, no? Ci vuole un baracchino serio per fare le prove, da uno pulito che non abbia manomissioni o cose del genere, perché se no, se c'hai una spuria per dire di 0,01 watt di armonica, quello lo moltiplica per 1000 e fatelo pronto cosa esce, lasciamo perdere. Va bene, comunque già si vede che funziona, Salvato, non ci sono problemi, non ne dubitavo. C'è Mario che non sta uscendo bene, avanti Mario. Ma io ci sto uscendo bene, ho attaccato l'altro apparecchio. L'alimentatore che se ne fa andare un fumo, non ce la fa più alimentare, quando vado a modulare si abbassa un bel. Ma scusa un attimino, tu stai utilizzando il 440 o il 140 Mario, spiegami. 140. Abbassa di appena la potenza, Mario deve stare andando troppo senza cosa, perché è troppo sensibile qualcosa della potenza. Cioè sono meno della metà di potenza. Stavo modulando con 40 watt, nemmeno. No, aspetta Mario, qua c'è qualche cosa che non va, perché sì, stai arrivando con Santiago di Falpetra, cioè su Santiago 3 qua, ma non vedete che c'è da Santiago 3, e la radio ci ti sta portando dietro dei rumori brutti. Adesso sto vedendo l'Argus. Ma c'è qualche altra cosa, c'è qualche problema sulla antenna, se l'ho messo. E tra l'altro, vabbè, non vedete come c'è già Santiago 3, lo stesso Santiago di Falchetto. Secondo me deve andare l'altro giorno, come lui sta arrivando 9.5 qua, però non è lui. Lui con quell'Argus arrivava molto, ma molto più forte. Per me se li stanno volando è troppo quel baracchino. Ma non lo so, dai, io adesso spengo, perché se no magari mi fa danno, va. Sentiamo alle prossime, magari raffredda l'alimentatore e rientra con l'altro. Ma l'alimentatore cos'è? Ha perso proprio lo switching, Mario? No, è un trasformatore di quelli tradizionali, però mi sembra che siccome da stamattina è acceso, magari non ce la fa più e quando vado a chiacchierare lo switcher mi si abbassa la luce. Mari, ha scaldato un po', non bisogna trattare, sono stati l'avvolgimento interno, poi Mari, anziché dartene 20, te ne da 12 di ampere, qualcosa lì, con l'alimentatore, come sempre quelli molto grossi, almeno 40 ampere effettivi, così sei tranquillo, questo che c'ho io ne aveva uno a 30 per continuo, adesso ne ha uno a 60, senza vento, non è niente, chi può dire 24 ore su 24, è sempre al verde, ma così muove la lancetta giù mai. Quello è bello, però che fai sotto quello a 60, Rubè? Ma questo l'abbiamo fatto di Torino, non me lo metto, l'ho comprato una fesseria, 80 euro, però io sto guardando su internet, su quello subito, ne stavo vendendo uno, quello della Vettaggi salvato da 40 ampere, quello grosso, il più grosso, 80 euro. E beh, il numero di telefono non ce l'hai? Adesso qua non ce l'ho, bisogna cercarlo, però non c'è la fotografia, poi c'è anche altri apparati, questo, tante cose aveva. Questo mi ha colpito perché era 40 ampere effettivi, quello lo conosco, quello vero della Vettaggi, il più grosso che c'hanno. E dico, quanti ampere è quello della Vettaggi? 40 ampere. Ma c'hai il numero di telefono, Rubè? No, non lo conosco, il numero è già... è di Sassari, c'è anche il nome, non so come si chiama, perché c'è scritto Sassari, e poi c'è anche dei baracchini, un amplificatore, eccetera, è in zona di mare, però, perché ci si vede, è una villetta, la fotografia con l'aria aperta, si vede il mare vicino a casa sua, una bella villa c'ha pure, chissà chi è. Solo mi faccia con l'alimentatore, che questo non lo vedi, che non posso suonare più, se non inizia a sentirsi quel fischio. Sì, no, anche io l'altro, non il fischio, era il mal laterale, andava male, no? Quando li chiedi di piena potenza, no? Le ventole si accendevano spesso, è il frighito, non è neanche di ventola, lo puoi tenere acceso, ora è a puntino, cioè se hai presente che il fondo scala deve fare tutto il mezzo giro, questo è proprio nel puntino di giù, dove ci sono, aspetta. Ma che ampere è adesso? Adesso ne sta dando 8 ampere, perché se la sta 12, 24, quante 12, 24, 36, 48 e 80. Adesso scende mi controllo quel sito, così magari, ma e cosa ci non c'è una cosa pubblica anche no? Non mi ricordo poi cosa c'aveva, altre cose, no, cubico ho cercato da tante parti, e ce n'è uno che sta vendendo, 240 euro, giusto adesso è Marco. E vai, adesso mi serve l'alimentatore per mettere in funzione la stazione, e poi devo cambiare tutti i cavi, perché ce l'ho troppi anni, quindi devo prendere i cavi nuovi. Ma tu cosa sei, cavo grosso o cavo leggero, 50? No, il grosso, cioè, che già a portare dentro casa, per carità, ci vuole, pensa col tempo, c'è ancora un giritto. No, io già l'avevo preso buono. Me ne avanti quel pizzito, però poi non erano troppo corti, non li ho neanche usati. Ce l'ha ancora, lui, forse se ti passa, vabbè, stanno, quanti metri sanno, me ne ha 8 metri, quanti ne hai bisogno? No, io non lo voglio cambiare proprio, Robè, voglio staccarlo direttamente, non intendo metterlo nuovo, perché io ho tanti anni e ce l'avrò più di 15 anni questi capi. Vabbè, se è integro, magari non sarà come nuovo il capo, perché però se c'è quello buono già dura una vita. Le 213 quello piccolo che ho messo io, quello a doppio isolamento di guaina, quelli durano una vita. Dai, al limite lo controlli, non costa niente. Sì, aspetta, c'è un particolare, mi sembra che uno era scritto in verde, uno era rosso, era. Quello mille è quello verde. E io c'ho quello lì. Allora, voglio più che altro, no, controllare magari i bocchettoni, se forse anche magari ci siano ossidati, queste cose qua, perché magari qualche cosa sta perdendo. Sicuramente qualcosina appese, ma basta uno spezzone, era bene a me questo colato esterno, sicuramente questo qualcosina me la toglie, dico vabbè, ma per dire anziché uscire con 5 watt esci con 4,57 per dire qualche fesserina, però poi c'è la calata del cavo, io ho 40 metri di cavo, 35 metri di cavo, anche se è grosso un pochettino toglie, eccetera eccetera, poi c'hai le connessioni, l'ispezione eccetera eccetera, poi magari sommando tutti per dire che uscire con 5 watt e ci con 4. Sì, sicuramente. No, ma tutto quello che controllarlo, non è che mi ci metta, manca il tempo la buglia. Ok, ma chi c'è? Ma frattempo ci sei ancora? Ah, perché ci sono sempre qua, l'ascolto ma già ci sono, vai. Niente, come ti arrivo alle tue coordinate? Allora, signore, c'è quello di ieri, se Santiago 3, uscite Santiago 4, ma io oggi va bene, diciamo, non riesco a capire perché, vabbè, se non c'ho quello, non è oggi, ecco, sorriso è un buon segno. Però sicuramente quando ti tiri su antenna non vuoi che cambia tutto, non fa che. Caparogero, in effetti così, adesso quando piazza l'antenna dovrei uscire meglio, dai. Pur magari ci applichi un bel microfono e vedrai che migliori tantissimo. Caparogero, riprendi Robby. Come sei arrivato a fare l'altro parco? Passaggio sabato. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova? Santiago quasi 5, dai. Senza, cosa vuol dire? Farsi sentire e poi sentire roba. Grazie a cosa? Se io magari avrei saluto altre cose, mi avrei sentito meglio, mi avrei arrivato a consigliere più alto. E già l'ubrido avreste moltiplicato. Qui, se vogliamo fare una prova, vi faccio sentire il confronto con la macchina, con la grande, diciamo, con la multimanda. Ci prego un secondo, se volete ve la faccio sentire. Va, faccio da sentire, dai. Oh, non sei tu, Farchello? No, negativo. Il microfono. Mantenere tutto Farchello, quanto migliorerai quando mi monti sull'altra, specialmente se si attiva un po' più in alto con noi, perché se vai sull'altezza. Vediamo un po', Roberto, ci sei? È uscito un attimino Roberto, ha detto se stava scendo, però stavo parlando e non ho risposto. Roberto, ci sei? L'antenna, sta piazzando l'antenna. Se fa bene è arrivato su Santiago 5. Vai tu. Le macchine te lo piazzi tu, Falke? Sì. C'ho un lato del mobile che lo piazzo in macchina, o posso piazzare anche la 87, non c'ho problemi, ne ho due. Ah, ok. E che antenna ti fai mettere in macchina? Adesso c'ho quella con la calamita, però dovrei metterla fissa adesso l'antenna. C'hai già, quindi, capito, qua stai usando con la base magnetica? Non me lo ricordo la marca, ma non me la ricordo. Sinceramente parlando non mi ricordo la marca, capito, perché me l'hanno regalata, però non c'era la scritta. Comunque dovrebbe essere champion, una cosa del genere. Ok. Guarda, se ti interessa ti do una Turbo 2001, quella che c'ha, identica a quella che c'ha Gianni, non so se l'hai mai vista. Sì, già l'ho vista. Niente, no, per il momento già va bene quella che ho, comunque quanto non stai dando? Niente, ce l'ho qui che non la uso più, ce l'avevo nell'altro mezzo, adesso non l'ho pronta, se la vuoi te la prendi, te la usi, ripeto, è gemella identica a quella di che c'è Gianni, ma c'è una resa stupenda, solo che l'ingombro è tanto, è per quello che non la voglio io. Come l'ingombro è tanto? È grande, lunga, non l'hai vista, è enorme. Vabbè, se non la devi usare, se me la vuoi dare. Senz'altro, guarda, io la porto su, te la posso portare su anche lunedì questa qua, la metto in macchina e me la porto su. Ok, non sa che coordinate mie lo sto, no? No, me l'ho detto, lo sa. Come? L'ho detto, lo sa. Ah, guarda, io te lo posso dire anche a Baracchino, non c'è problema, io abito in via Rockefeller. Va bene, ma dico, ma non so, se tu con chi c'è confetta, per riuscire a prendertela, così sai dove sono io, con Natalino o con Gianni c'è confetta? Con Natalino sì che c'è confidenza. Allora, dove è Natalino? E così io la prendo, me la porto appresso lunedì mattina, e così passa e te la porti via. Vabbè, tu vedi? Commutato del coso, volevo farvela sentire, però probabilmente ho sbagliato cavo perché non stavo uscendo di segnale. Vabbè, dimmi. Ascolta, mi deve regalare un'antenna a Salvatore, non è che la puoi ritirare tu e me la passi, già lo sai dove abito, no? Non lo so dove abiti, non è, tu mi hai detto dove abita Raimondo, non so esattamente il punto esatto, ma la zona già lo so. Sì, è di fronte all'ippodromo, dove abita Dio del mondo abito io. Ma come viene a fare se capita il fermatore qua? Tu lo sai dove lavoro io? No. Il numero della carino ce l'hai tu? Come? Il numero del telefono della carino ce l'hai tu? No, negativo. Di Gianni? Negativo. E di Gabriele il numero del telefono tu? Di Luca? Di chi? No, no, di nessuno proprio. Non ci sono problemi, al limite ci sentiamo in radio, mi dici che vieni lì all'ippodromo e io mi faccio trovare lì via Parigi o più su via Parigi, tu dimmi dove ti puoi trovare, all'ingresso lì all'ippodromo, non c'è problema. No, io non so, tu non sei vicino alla Coppa, per me tu abiti lì vicino, dove abita Maturicino, Raimondo. Sì, dove abita Raimondo io abito, capito Roberto? Sì, però allora, io so dove abita Raimondo, nel senso il palazzo può essere uno o l'altro, non è che ti dica vado all'ingresso di lì e te la porto. Io quando c'è l'officina che se te la porta a Salvatore, per dire, quando me la porta poi ci sentiamo in radio e ti dico fatti trovare più tardi che sono stato per portarla, quanto è grande Salvatore? Sì, mi sembra che sia un metro e tanto, ma è grande, sai cosa va avanti la turma di Milano, quella che guarda quella che c'era da Gianni, che c'ha Gianni altri. Ah, la turma di Milano stai parlando? Sì, siccome non la sto piazzando, non è piazzo più di quella lì perché è troppo grande, allora ce l'ho lì, ecco, lui se la usa, lui che c'ha la radio in macchina se la usa. Ma tu? Ah, stai parlando di antenna, cazzo, mica è suonato, sto parlando della matova turbo, stavo pensando io. Tanta felicità. Ciao Natalino, ciao Roberto e anche Falchetto, naturalmente auguri a tutti e buona fortuna per il nuovo anno. Avanti Favato. Ciao, facciamo Giulio, bene, mi sentite anche perché auguri ricambiati al 100% tutti quanti, tutto per la famiglia. Speriamo che sia l'anno migliore giù. Peggio non può andare, forse, se fa, fa peggio addio giù, non so più cosa fare. Ok, vai con me. Ciao Giulio, mi hai sentito, tanti auguri anche a tutto quello che desidera. Avanti Falchetto. Ciao Giulio, tanti auguri, tante cose belle, dai, che sia un anno migliore, dai. Ok, penso che debba parlare adesso Natalino, avanti Natalino. Ciao Giulio, buonasera, ben tratto e auguri, e buon anno, dai. Ok, riprendi Salvatore. Sì, e allora Giulio, come sono andate le feste, bene? Sì, Salvatore, le feste sono andate benissimo, dunque naturalmente io me ne sono trascorsi così in famiglia, come faccio quasi sempre, veramente esco fuori, anche perché non mi sembra il caso, soprattutto ieri era una giornataccia e non era possibile spostarsi, tanta gente l'ha fatto, naturalmente ognuno fa come crede, ha delle proprie idee, ma io ho preferito rimanere a casa e penso che non abbia sbagliato considerando la pioggia di ieri, sabato, capito? Ha ragione, ieri ha fatto insomma una cosa a catinelle era quell'acqua, certo che ho rovinato i piani di molta gente, quelli che erano in Piazza Italia, quelli che erano giù al Ghego, anche a Castelsardo mi sembra che c'era il concerto, allora certo l'ha rovinato, mi spiace perché magari sai, poteva essere una bella festa, comunque sì, anche noi, anche io ho passato in famiglia e quindi niente, se adesso queste feste sono passate, ormai tocca le epifanie giù, tutti a lavoro di nuovo. Ok, riprendi Roberto. Vabbè, io ho già avuto di nuovo la epifania, già se ne dà. Invece va a parlare di Natalino, l'ingresso di Natalino, vabbè, risentici, ti stavo uscendo, così Natalino. Sentirci, ti stavo dicendo che ti sei bloccato in anticipo, ti è venuto spontaneo, là, non c'è problema. Io ho memorizzato tutto, vedi anche qua come si parla, hai capito? Ci abbiamo il librone, l'altro giorno qualche ti ha detto una parola, ma ha fatto cosa era qualche che ha detto? Non me lo ricordo, non te la ripeto, se no la riscrivi due volte. Vabbè, la mappa è sui down, l'acqua down, una cosa del genere, non ricordo che parola era, vabbè. E Gianni, nel microfono ha detto, tutti gli ingranaggi del microfono si sono rotti. Un microfono meccanico ha. Ma lì, non il circuito, dice, tu guarda, devo sistemare gli ingranaggi del microfono, che non sta uscendo bene. Mette il pannocchio al microfono e non riusciva più, o meglio non cambiava canale. No, va bene, e loro se ne fanno tanti parlando, perché no, alle volte si è distratti, alle volte siamo anche pensierosi e boh, non lo so cosa ci succede, oppure la vecchiaia. Io parlo per me e non voglio offendere nessuno, per carità, e quindi stava tu. Questo è Mario che sta cercando di parlare. Sì, no, ma era la vecchiaia, è vecchiaia. Per me è vecchiaia perché sono stimito rimbambendo oggi. Forse come avete dica, è tutto quello che abbiamo fatto negli anni passati, adesso ci abitavo un momento di stasi. Ok, però va Mario, vediamo un po' se è rimediato all'inconveniente. Connessione del microfono da tutte e due le parti, da dietro e sull'apparato. E che adesso il segnale c'è, Robe, il segnale c'è, proprio la scenicolia, Sì, il segnale è 940, no, il segnale è forte, il problema è, secondo me, è il microfono, ma la fatta almeno una volta nel 60 dietro, e lo schiotto di dietro. Ma così va ora? Adesso stai uscendo. Cappa cappa. Ciao Giulio, auguri, buon anno! Ciao Mario, ben sentito, auguroni anche a te, dopo un secolo. Cosa ti era successo? Non ti avevo più sentito. sono andato in ritardo un po', come dromedari. Sai cos'è? Che tu hai il piso di lavorare, per quello che non trovi mai il tempo, allora ti metti in ritardo per la radiofrequenza. Vero Mario? Kappa, non ci vuoi fare. Però ogni tanto mi faccio vedere, almeno nelle occasioni importanti. Quello sì, già è vero, ma adesso sono anche un po' di tempo che non ti vedo, non sei più passato davanti alla mia bottega. Di tanto in tanto prima ti vedevo, ma evidentemente non hai il giro programmato per quella zona lì. A passare lì è molto difficile per me. Comunque, niente, dai. L'importante è che bene o male ci sentiamo, almeno a scambiarci gli auguri. Certo, quello è importante. mi fa piacere Mario averti risentito. Vediamo di far girare. Avanti sabato. Sì, Kappa. Ma cosa era Mario poco fa? Cos'è che ci avevi toccato? Nulla, niente. Adesso non riaccendo con l'allenatore, però un baracchino non c'è niente, l'allenatore che mi sembra un po' piccolo e quando surriscalda poi non ce la fa più. Vabbè, ma ha avuto un calo di orologio, ma no, è presa, si è sceso al senza con te, e poi dopo fa non riuscivi a essere radio, qui ha ragione Roberto, c'era qualche connessione con la mamma. Oh, negativo, adesso sono di nuovo col Chievo. Quando sono sceso a tre, come hai detto tu, era con l'Argus. E allora ragione, è l'Argus, cioè, io, ho tutta la differenza, cioè. E poi è nata lì, come ti hai passato alle notte? A letto. Ma Giovanni mi sono bucato, sono fatto. Comunque un attimo di bianco, adesso guarda metti un caffè alla faccia di chi non vuole. Io se l'avevo portato qui agli amici, mira, ma sai che te ne scenda. A te, Natali, ma a letto, ma va solo, spero. No, a fare i miei qui. Ma la sorte, già, ma non è che dice agli amici si gonfi di qualche cosa, no? O me, o ma, tutta la cura fa a me. Allora, così bisogna fare, tutto di nascosto, come te i garroni. Vabbè, fai del bene, lì. Non so se deve stare col palco, Natalino, che sai cosa ha combinato a rimanere a notte, mamma mia, questo Natalino. Dice la madre, sta facendo male, è lui che sta facendo male perché è stanco, dimmi con Natalino. C'è gente sotto, Natalino di bianco, te che vuole entrare? Attenzione, canale 5 che ti vuole entrare. Sì, di volta a queste occhie che sotto, vabbè. Cavato, guarda, se uno vuole entrare, la porta è aperta, amici. Basta dire buonasera, entra. Sì, ma lui dice, corrente, ma la chiudiamo domani. Oh, ci piace accidenti. No, c'è un questo, se ci deve essere gente magari malamubile che lo faccio un questo. Vabbè, intanto niente si muove, lo smetto da me. E quindi, perché riprendi? Kappa, Rogero, alla benemera. Natalino si è stancato ieri sera, capito, sabato. Già andava bene, dai, già va bene, dai. Ok, riprendi. Quadrato. Stavo riprendendo da Giulio, che è riposo più di me. Avanti, Giulio. Ok, riprendo io. Natalino, evidentemente, gli si aspettava parecchio, oppure... Qualcuno è andato a fare visita e allora ha dovuto assentarsi. Va bene così. Mario, l'altro giorno mi sono incontrato con Seppo, infatti avevo chiesto anche a lui, ho detto, ma non l'ho più sentito Mario, gli ho detto. Ho detto, ma dice, sinceramente nemmeno io. Lui per l'occasione, quel giorno, era qui a Sassari, evidentemente era in riposo, perché tu lo sai dove lavora, no? E dunque ci siamo incontrati così per puro caso, anche se a dire la verità di tanto in tanto ci sentiamo qualche volta anche per telefono. E così, ho detto, ma non lo sento più mai, anch'io mi ho piacere di sentirlo, ma non l'ho più sentito, dice anche perché non sto più accendendo il baracchino, e allora, ha detto, no, addirittura Mario non l'ho più sentito per questa, dunque non hai perso niente, nel senso che se tu non lo accendi, o meglio se accendi non lo senti perché è lui che non si fa sentire, capito Mario? Kappa, no, era un po'... Vabbè, c'è stato un periodo un po' nero. poi ce n'è stato un altro un po' grigio, ma comunque niente. Siccome mi sto mettendo a posto anche questo mobile, allora nulla, non mi stavo accendendo, poi stanco, mollavo tutto, mi sedevo nel computer, mi giocavo un po' col computer. Allora adesso per Natale quasi finito e sto rientrando là, almeno per salutare gli amici. Dimmi una cosa Giulio, siccome io è già 3-4 giorni che l'accendo di seguito, però non ho sentito più a Ponzio Pilato. Non hai sentito tu, non l'ho capito, chi? A Ponzio Pilato, l'amico tuo. Devo dire che non sta più andando frequenza, io non l'ho più visto, l'ho visto l'ultima volta, saranno 15-20 giorni fa, è passato, e sai cos'è Mario? Non, evidentemente non sta più accompagnando la nipote a scuola e ho pensato, perché prima lui usciva principalmente per il fatto che accompagnava la nipote a scuola, poi l'andava a riprendere, sai, lui abita lontano dal centro della città, o meglio da dove era ubicata la scuola, dove andava la ragazza, evidentemente la ragazza non va più lì a scuola e lui allora non è più in passaggio e non è per quello che non l'ho più visto, capito Mario? Esatto, ma non l'ho sentito manco in presenza. Prima poco a poco entrava, me la dava il buongiorno. Come questa volta, quest'anno non è entrato Gian Maria Figaro. Niente, Si è abbassato un meme. È l'alimentatore che sta andando a farsi benedire. Va bene. Comunque Giulio, te ne sta prendendo lavoro, mi Mario. Non hai visto di se sta facendo il mobiletto, la vetrinetta. Sei attento. Ma già lo so io che lavoro sto facendo, si sta allestendo una vetrina per l'esposizione di tutti gli apparati che ha, capito? No, Mario è un amico, non è così pericoloso per quanto riguarda il mio mestiere, seppure io a questo punto non ho più niente da perdere, nel senso che lavorare o non lavorare, ma si fa sempre bene, ormai sono pensionato, che se ne frega, di tanto in tanto qualche lavoro lo faccio, arrotondo anche, niente di più, perciò, vero Mario, non sei così crudele nei miei confronti? No, niente, è un mobile di quelli della Olivetti, che quando abbiamo svuotato il magazzino di un amico, l'ho preso e siccome era tutto vuoto, ho fatto delle mensoline e ci ho messo tutti gli apparati. Adesso ci stavo collegando i fili e sono già arrivato a buon punto. E niente, giusto per passare anche un po' il tempo. Sono rientratomi. Ok, Natali. Ci abbiamo sentito, ci abbiamo chiamato, ci abbiamo anche criticato, così, no, perché sai, non c'è motivo di criticarsi, ci mancherebbe altro. Vabbè, dai, ti passo la parola a te. E potete dire quello che volete, l'importante è che se ne parli. Ah, quello è vero, è importante quello, Natalia. Se di una persona si parla, evidentemente, perché ancora è sulla buona strada della salute. Vabbè, scherziamo, dai. Oggi è una giornata di festa e dunque un po' d'allegria. Cioè, anche se a dire la verità, io ho un leggerissimo mal di testa, ma già da stamattina. Ma non perché ho bevuto, io sono assegno, tu già lo sai, poi non c'è bisogno che te lo dica. Ma così, evidentemente, sai, ieri notte, perché ho incominciato ad addormentarmi, sono state le 3:30, forse anche le 4, e allora stamattina mi sono svegliato un po' presto, ed ecco che non ho riposato bene, devo fare le ore che mi necessitano, e allora evidentemente per quello che ho leggerissimo mal di testa. Ma se continuo così mi prendo una pastiglia dopo e così lo trocchiamo subito. Vai, sabato! Ma che cosa sto dicendo? Mario, ma tu stai cercando appunto il Pilato, proprio in questo primo lo cerchi, se l'ha nascosto da qualche parte. Cosa? Tu stai cercando chi? Punto Pilato, proprio nel primo di Natale lo cerchi. E a dargli gli auguri, è una persona in me, non è che è meraviglia di 3, non di 4. Ma proprio sto passando cerca, secondo me questo è uno, ha capito la battuta Mario, poi sono filato, non è che penso che ha attaccato Gesù Cristo la, quando è nato, che voleva ammazzare tutti i bambini nella prima di Natale. Pappa, già l'ho capito, però io ti ho detto che quello lì era una persona, siccome modulava sempre con lui, in questi giorni non l'ho sentito per niente. Vabbè, ma per precauzione, penso sia invece che è Susa, almeno non parlare in questo periodo, ma dopo l'epifania riprende. E beh, Natalia, già tra ballata le robe, sì, ma è Gianni Rodè che non si sente. A Olbia sarà tornando, a Olbia dal cognato è andato a far visitare il cognato. C'erano passato lì il Capodanno e pure l'infusura già avevano invidiato a un concerto di Gianna Nannini, io già non mi sono mosso l'acqua, non stavo bene a calduccio io, la spittina. Mi sono bevuto anche il vino, tranquillo, ieri notte, a mezzogiorno, e insomma, già siamo di lusso, diciamo così, con questo apparecchio ti piace oppure no? Sì, che mi piace, sì, che sei più povero, sì. Più mascolo. Se mi dici, sì, al calduccio, Mario, al calduccio, E allora, a lui gli piacciono le cose calde. E a quest'ora sì, Mario, ormai sto diventando vecchio e quindi bisogna che la cosa calda ci sia. Questa cosa calda, pal sotto o pal sopra? Dici, buio, Mario. Sì, ma poi non è neanche abbastanza poco, Mario. Di più anche nei dintorni. E perché non ci troviamo sempre con Mario in un certo posto? Venite seriamente, non fate gli scandalosi. Che luogo è? Per dire che luogo è questo? E mica lo dovremmo a te che luogo è, se no lo sanno tutti. Noi siamo come gli amanti di Aborice, non lo sai. Ecco, vabbè, mi fai, sei grandi amici. Io sempre il peggio che siamo amici, so. Vai Giulio, dai. Io non glielo chiedo perché intanto già lo so dove sono, dunque. E va bene, dai, non è un problema. Ma Natalia, il telefono sempre lo stesso numero hai? Sì, lo sai che non lo posso cambiare quel numero. Ah, ho capito. No, vabbè, era solo un interrogativo e basta, niente di più. Abbiamo trascurato un pochino a Falchetto. Falchetto, scusa, ci avanti, riprendi. È positivo, no? A me piace anche ascoltare, giù, non c'è problema, capito? Piace anche ascoltare. Andrà bene quel guy, Natalia, allora vi trovate con Mario, lui è fantastico, così è. E allora lui viene col camioncino, io vado col Toyota lì in quel posto lì e ci troviamo sempre lì, da quelle parti. Va bene, dai, fai girare la ruota, dai Natali. Natali, con la Toyota vai, aiuto. Cosa lì, dai, visto la Natali, io non può scherzare che subito ci dicono che siamo persone poco serie, bu. Ma te le immagini, queste persone, sono ciaramidusi, so proprio, guarda, e poi c'è quel Salvatore, mi è proprio maligno. Ma gappa, e Salvatore deve essere più barabbato, pure fugu. Meno male, bisogna che tanto smorzare gli animi, vero? Già subiamo tutti i problemi durante la settimana giù. Almeno quando siamo qua bisogna ridere. Ma com'è la una? Ma io non lo so cosa tu stai combinando. Te lo immaginerei, Natali, ci ha tradito, c'ha Salvatore. E allora, si fa sentire ogni volta di Papa questo Salvatore, lo stesso, buh. Aspetta che torno tempo per lutto, lo sai che non è in filo a lui. Già stasera, adesso li potrà beneficiare perché sono dalle tre qua, e sono ci sono persone tranquille, non te ne accorgi neanche dell'orario. Io sono l'orologio qua, nel cronometro, infatti ogni volta che accendo l'apparato nel ricevitore parte l'orologio, già non ne sono altro proprio adesso, ma tanto, quindi vuoi andare, però per la porta mano a fare il bagno, non penso, no. Non c'è niente da vedere, non hai niente da fare, tanto uguale rimani in radio, perché proprio le vuole uscire sabato. E forse lo sarei a fare un buon lavoro adesso, speriamo che se me ne faccio la guida, se non mi sto per cambiare le uscite. Uscite domani, sta bene in casa, al calduccio, ma è così di giù. Beh sì, no, io non esco di sicuro, anche perché sto aspettando fra 10 minuti, mi devo sintonizzare su Rete 4, essendo un appassionato di sport, c'è cioè la storia, la leggenda anzi di Fausto Coppi, alle 6, alle 6 meno 5 esattamente su Rete 4, perciò ho dato anche un'informazione, eventualmente qualcuno di voi potesse interessare. Ok, così è, vabbè. Io lo voglio vedere quella trasmissione lì. Vediamo un po' che cosa dicono. 50 anni fa è morto Fausto Coppi. Vabbè, era un campionissimo. Come pochi, insomma, ecco. Vabbè. Riprendiamo il nostro discorso. Avanti, Falchetto. Campa Giulio, ma sono programmi belli da vedere quelli, anche a me piacciono, è uno sport specialmente, mi piace in generale comunque, ma sono cose belle da vedere, no, è così, va bene, riprendete. Giulio? Sì, dimmi. Comunque la notte, stamattina era alle 3, il programma proprio su Fausto Coppi, sul padre verso le 11:30, ho visto la parte finale, c'era quando si è ammalato, che tra l'altro si è ammalato come un imbecille, adesso si è andato a farsi in Africa, e lì si è preso la malaria, è tornato in Italia, e stava a leggere la febbre, c'era il fratello, il figlio che si chiama come lui, Fausto Coppi Junior, la sorella, tutti quanti, e c'era il medico di famiglia che deve essere proprio un incompetente, perché gli ha diagnosticato un'influenza, e dice no, l'hanno curato come influenza. Poi dopo 2 giorni è morto, dopo 15 ore che l'hanno ospedale esatta è morto, che l'hanno ricoverato, perché l'ha visto questo professore, ha detto questa è malaria, ha portato in ospedale ed è morto subito, così immediatamente, dopo 15 ore, perché ha preso la malaria in Africa. Sì, io diciamo che di linea di massima so come è andata la storia, anche perché ho sempre seguito il ciclismo da ragazzo, da sempre, e dunque poi anche un'altra volta avevo seguito un'altra trasmissione, adesso non mi ricordo chi l'aveva fatta, in quale canale era, e appunto parlava anche di questo. Sì, però questa è una storia, una leggenda di 50 anni, e dunque vediamo un po' che cosa dico, sai. Me lo posso immaginare che cosa dico, perché intanto la storia di Coppi ormai è nota un po' a tutti, anche a quelli che non hanno seguito lo sport, perciò lo sappiamo, è una leggenda, e trattandosi di una leggenda chiaramente viene a conoscenza un po' a tutti, capito? Di conseguenza, però sono curioso, voglio vedere alle 6 meno 5 sono 24, sto seguendo la pubblicità già da un paio di giorni, e dunque so con certezza che a quell'ora ci sarà quella trasmissione lì. Va bene, e quindi sabato. Campionissimo, penso che sia una persona nota anche a chi non era appassionato di ciclismo, perché in casa è una tradizione il ciclismo, quindi è ovvio. Una cosa ce la dire per Giulio, è stato il migliore, è stato il più bravo, forse ai tempi di luce, con i controlli che ci sono di doping, qualche squalifica sarà presa anche lui, Giulio. Ah beh, questo è il contatto, invece considerato che tutti quanti un aiutino se lo prendono sempre. In un certo senso è sbagliato, però in un certo altro senso diciamo che bisogna anche capire che queste persone fanno 300 km al giorno in linea di massima, così da 250, 220, eccetera, eccetera. Di un aiutino avranno pure bisogno, o qualche farmaco se lo dovranno pure prendere, anche se io devo dire sono contrario, e sia ben chiaro, io sono contrario assolutamente a certe medicine, a certe dosi soprattutto. Evidentemente loro un po' per, diciamo così, per non avere tutto questo sacrificio sul loro fisico, perché è una vitaccia, sembra così, ma è una vitaccia, che percorrono 9-10 mesi l'anno, l'Africa a 250 miglia chilometri al giorno, non è una cosa semplice, dalle intemperie al caldo torrido e così via, quando fanno i valigini eccetera, perciò è uno sforzo massacrante. Questo però non giustifica il fatto che loro si prendano certe dosi di droga, o meglio di doping, e non va bene. Sarebbe più bello lo sport se fosse veramente pulito, ognuno magari anche a ridurre le corse nella distanza, anziché fare tutta questa distanza così lunga, ridurre i chilometri. Io penso che sarebbe più bello il ciclismo a questo punto, insomma. No, hai ragione, ma più che altro per motivi di ingaggi non si può fare in Giro d'Italia, non si può fare più la Francia, non si può fare la Vuelta, nessun fisico può reggere a questi periodi, a queste tre corse, o ne fai una ancora, quindi è impossibile. Però ritornando a quello che stavo dicendo, allora c'erano pochissimi controlli e si aiutavano abbastanza, quindi se fai certi paragoni con i campioni di oggi è molto difficile, perché bisogna mettere gli stessi parametri più uguali per tutti. Io sono convinto che qualche squalifica sarà presa, sia lui che anche il suo amico che è carissimo, Rifare e Bartali, saranno presa, perché si sa che qualche cosa si usavano. Ok, con questo non voglio annoiare gli altri, avanti Roberto. Sì, vabbè, la diverso, è perché noi stiamo parlando di ciclismo, i giocatori cosa devi dire? È la stessa cosa, anche peggio, perché fanno allenamenti tutti i giorni, partite non dico due volte alla settimana, perché anche qualche volta le fanno anche di più di due quando ci sono le cose, le fanno in tempi molto brevi, giocano il mercoledì in Coppa, poi il sabato stanno di nuovo giocando in Coppa dei Campioni e il mercoledì di nuovo stanno facendo la Coppa Italia. È una cosa stressante, un organismo normale non ci riesce a sopportare questi sforzi, per cui noi non lo sappiamo, ma prenderanno sicuramente qualche sostanza integrativa, che come faranno a nasconderla non lo so, però secondo me la piglieranno per forza. Sì, beh, quello che... Ma tu pensa un ciclista quando arriva su alle tappe di montagna, che fa quattro giorni di seguito con quelle tappe, come fa a recuperare? È impossibile, quindi tappe massacranti, in più fate prolungate per tutti questi giri di Vuelta, che è lo stesso pesante, Tour de France è pesante, Giro d'Italia è pesante, mettici qualche classica e che fisico ci vuole, non è possibile. Ok, riprendi giù. Sì, così è stato, basta pensare che un ciclista non smette mai di pedalare, perché anche quando finisce la stagione ciclistica loro sono sempre in allenamento eccetera, ma questo è un altro discorso, come pausa ne fanno pochissime, ne fanno. Poi l'attività agonistica mi sembra che incomincia intorno al febbraio, i primi di febbraio, e finisce poi a ottobre inoltrato, sì, che si può immaginare, prendono praticamente d'inverno, prendono la primavera, l'estate e ritornano sino all'autunno, insomma diciamo che è una vita, cioè sembra così. Sì, è vero che guadagnano anche, non ci sono dubbi, ma guadagnano solo i grandi campioni, perché i gregari sono a livello di stipendio. Mi sembra che lo stipendio massimo sino a qualche anno fa perlomeno era di 30-32 mila euro l'anno per un gregario, mentre il campione magari era pagato a fior di milioni. Questo sì, è vero, non ci sono dubbi. Sì, è così. Io ripeto, sono contrario a queste sostanze che prendono eccetera, però sono anche umano, perché non si può pretendere da una persona che si faccia tutti i giorni tutta quella distanza così lunga, 220, 250, 300 km, alle volte anche oltre. No, io se fossi nella federazione ciclistica, cioè uno ad avere voce in capitolo nella federazione ciclistica, avrei proposto di diminuire il chilometraggio dei ciclisti in modo che loro non facessero appunto abuso di queste sostanze. Io penso che serva da deterrente per questo fatto qua del looping di sabato. Sento sotto un bip, ma qualcuno deve entrare, cioè. Vabbè. Ok, dai, riprendi Mario. E cosa vuoi riprendere? Purtroppo è tutto così. C'è poco da a chiacchierare, si sa che le cose sono risapute e quelle cose lì sono a livello mondiale, perché tutti quanti usano, tutti, sia i calciatori sia i corridori. È vero, poi la storia è storia, perché quello lì ha fatto la sua storia ed erano altri tempi. È come paragonare, per dire, un Giacomo Agostini con un Valentino Rossi. Oggi le moto danno certe prestazioni, danno quello, danno quell'altro. Ieri le prestazioni che hanno oggi non ce le avevano, così che non ci puoi fare nulla. Purtroppo quello lì oramai fa parte della storia, è come che tu ci parli di un Carnera. Quelli lì sono fenomeni che ai loro tempi hanno fatto la loro storia, appunto, e basta. Ma quello di Valentino Rossi è messo un dito alla piaga, è vero, perché Giacomo Agostini non aveva la tecnologia alle spalle che c'hanno oggi, come far studiare al computer, oppure studiare al computer, hai ragione, è vero, ci avevo pensato, effettivamente non si possono fare paragoni. Mentre che la boxe, meno male, un buio è sempre uguale, 50 anni fa come adesso è uguale. Lì conosci di mezzo un mezzo meccanico, sai, come l'automobilismo, l'evoluzione c'è da un anno all'altro, quindi è impossibile fare paragoni. Ok, dai, che c'è questo? C'è qualche riprende per poi fare già Natalino. Io già sono in ascolto, fa piacere ascoltare questi discorsi. Riprendi Natalino. Sì, riprendete voi, io sto spostando un mobile qua e mi devono rimettere gli alimentatori dove erano prima, perché sennò è un casotto qua. La verità è che ti abbiamo cuccato con la repulsiva in bocca e non potevi modulare, e allora sto trovando la scusa del mobile, e basta che te ne varia. Gli alimentatori, mica c'è, non è una lama a Mario, gira, ci mettiamo in macchina e saliamo. No, voi dovete telefonare alla Tecnocomunicazione, e me lo mandano, non c'è problema, l'hanno mandato a me e non lo mandano a lui. E voi non lo mandano a me, non lo mandano a lui. Cos'è che hai detto, Mario? Ho detto che noi non abbiamo gli incursi tuoi, tu c'hai più incursi. E allora tu, Natalia, regalo, e questo te lo ricopri nuovo, dai, per gli amici. Natalia, quanto tempo ti hai preso? Ecco, il buco a me è un congelatore con la roba da mangiare dentro, mi hai salvato. L'abbiamo fulminato. Natalia, quanto tempo ti hai preso? Aspetta un attimo, lasciatemi fare, che se no faccio peggio poi. Ma dimmi solamente che qualche intervento di scuola l'ho preso anch'io, l'ho potuto chiamare lì, quanto intervento hai preso? Non ho capito, ripeti. Quanto intervento hai preso questo alimentatore? 30 ampere, quello switching ho preso, perché ne ho uno da 40 e uno da, hai detto, la cantella 16, no, da 14 ampere l'altro. E adesso mi sto mettendo sopra questo tavolino qua. Capito. E io subito ho detto, va bene, voglio vedere se quella cifra si può prendere. Ma questo, allora, tra parentesi, questo qua è uno di Sassari, c'è quella roba, c'è anche uno switching, però lo switching serve così, non è bisogna che il trasformatore è più robusto, più affidabile. C'è quello della Zetangina, qua sempre uno switching nuovo, che c'è anche aperto sotto il contenitore per vedere, c'è due ventole, non l'avevo mai vista, due ventole da 25 ampere, più c'era le baracchini, non mi ricordo cosa c'aveva di altre cose. Prima che nessuno non va a Bellina, perché è in una villa questa Roma, e rimane il piazzale proprio di fronte al mare, però non ho capito che zona è questa villa, perché quel pezzo di mare non ce l'ho presente, però c'è scritto Sassari come zona, per cui può essere la debuccia di Alghero, Stintino, eccetera, eccetera. E poi ci prova a chiamare, domani mattina, oggi giornata io, oggi no, domani mattina prova a chiamare, se è vicino, infatti sono libero la mattina. lo farò vedere. No, perché questo, per questo stavo in busca, faccio il bif, cioè, ho pensato che sia arrivato. Ok, signori, io sospendo un po' perché ci sono troppo alla radio, adesso vado a chiedere se riuscire, se no casomai ripeto fra 10 minuti. Saluto in circolare a tutti, Giulio, Natalino, Mario, Franchetto e Roberto, secondo me ci sentiamo più tardi, mi prendi Roberto a girare. Ehi, allora mi è salvato, grazie, ci siamo un po' troppo, se no ci picchiano, allora anche lui può voler farmi vedere, a vedere se ci sono più talento dall'altra parte. Comunque ti saluto, ti auguro un buon divertimento, se andare da qualche parte, se non vai, siamo qua, tanto io tengo acceso, magari ti posso anche un qualche minuto, poi c'è tengo acceso ogni caso. Avanti Giulio, poi Salvatore. Ok, ciao Salvatore, salutoni, a risentirci molto presto. Grazie per il consiglio, anch'io chiudo perché ormai sono già le 6, meno 2 minuti, meno 3 minuti e dunque adesso inizia senz'altro la trasmissione appunto che vi dicevo poc'anzi. Salutoni a Natalino, salutoni a Roberto e naturalmente a Mario e poi anche a Falchetto, salutoni circolare a tutti e ancora per nuovo gli auguri a risentirci presto. Dai, io chiudo per il momento, ascolto finalino e dopodiché si vedrà più tardi o magari domani ci sentiremo ancora. Se prendi pure il falchetto e fai girare, vai. Campanai, salutoni Sandro, buona passeggiata con tutto. Salutoni anche a te Giulio, dai, ha fatto molto piacere di ascoltarti. Ok, riprendi Mario per i saluti. E poi mi dice questo Sandro. Ciao, vabbè, buon proseguo di serata, buon tutto. Auguro una salve familiare, se ci sentiamo bene, se no tutte le prossime. Dite a te, sabato, tutte le prossime, auguri, divertiti se devi uscire e ce la risentiamo. E a te uguale, Giulio, non è che cambia. Buon proseguo di serata, buon tutto e nuovamente auguri. E speriamo che l'anno 21 sia migliore, va. KK, ciao! E ok Mario, lo prendo ancora io, sì, speriamo proprio che questo prossimo anno sia migliore un po' per tutti, sia economicamente che di salute soprattutto. Saluto ancora a tutti sicuramente a risentirci, va, quello che per me, ciao! Ok, allora cosa ti dico? Io sono un sacco, ando e mi riposo almeno un quarto d'ora, là. E mi vado a mare pure le luci, a questa di incinarmi, va e di fa. E che so, come vedete, faccio quella prima che è attaccata al mobile. Va bene Mario, va, pure io va, faccio un po' di bianco così mi sgranchisco un po'. Va bene, dai, già ce ne ascoltiamo le prossime Mario, dai, ok. Intanto lo tengo atteso, dai, quando chiami già sono qui in casa. Ciao. Via Mario, ciao. Natalino non c'è più, no, così è Natalino. Guarda, ci sono già, rimango un po' in ascolto perché sto facendo quell'operazione lì di togliere gli alimentatori da qui sotto. E li metto sopra quel tavolino. Al limite già riprendo qua un po' appena ho finito di fare quel lavoretto lì. Anch'io adesso faccio, già rimango in ascolto anch'io, dai. E niente, faccio qualche cosetta, già lascio tutto acceso e ci sentiamo dopo, Natalino, dai. Ok, ciao. Ah, perché? Natalino, comunque c'è sempre un pezzo di bianco, se va là ad andare a terra a casa non vi sei passato, la massa che ti nell'aria. Te l'ho detto Mario, dovevo passare una commissione e me ne salivo, infatti ho fatto quella commissione e me ne sono salito subito. Vabbè, e quanti costava passare 5 minuti? Cosa ti costava passare 5 minuti? Dai, stava piovendo un casotto, già mi costava Mario, là. E dovevo fare quella commissione e poi me ne dovevo salire su subito, te l'ho detto, no? Infatti così anche fatto. Già lo so che me l'hai detto e così hai fatto. Però in macchina acqua non te ne toccava, se passavi 5 minuti non ti veniva un colpo, ma la schignola, sei sempre un cane morto, sì io. E più, vabbè, dai, non proseguo, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao Mario, adesso mi sposto questa roba qui, così al manco, mi vengo tutto a posto, mi avvengo le ciocchiate, no, mi avvengo le ceca, mi dura cosa, via, vabbè, dai.